giurisprudenza della Corte Europea di Giustizia può essere così noiosa che forse non avreste apprezzato la mia relazione, quindi ho cercato di guardare all'argomento da un punto di vista più generale, poi mi concentrerò su alcune questioni fondamentali che verranno sostenute però, come fanno di solito gli avvocati, dalla giurisprudenza. Potete vedere l'arrivo del custodio, potrebbe essere una sorpresa in quanto questo è un titolo piuttosto strano, ma io vi parlerò di valori e di interessi, questo è chiaro. Il primo punto che vorrei sottolineare è che quella che è la mia definizione personale di valori, si tratta di una definizione generica e naturalmente ce ne sono tantissime di definizioni dal punto di vista filosofico, legale, in tutti i vari settori si può definire la parola valore, ma secondo me questi sono i punti fondamentali di una comunità organizzata e questo è qualcosa che abbiamo tratto dalla rivoluzione francese, cioè i valori che hanno caratterizzato tutti gli stati moderni in Europa, ma anche negli Stati Uniti, e hanno caratterizzato anche le sue istituzioni moderne. Naturalmente è impossibile prendere in considerazione tutti gli sviluppi nel mondo per quanto riguarda i valori soprattutto dal punto di vista legale, e quindi ho cercato di concentrarmi sulla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Questo è un documento veramente interessante, perché tra i valori della carta, come titoli, abbiamo proprio i valori fondamentali che rappresentano i titoli dei vari capitoli. Abbiamo la dignità, poi abbiamo la libertà, che non è semplicemente un valore, ma è anche qualcosa di pratico, quello lo troviamo nel capitolo 2, poi nel capitolo 3 troviamo la parità, tutti i nostri colleghi ci parleranno di parità da diversi punti di vista, e poi la solidarietà, che rappresenta il titolo del capitolo 4. Ma ciò che è interessante nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea è che i valori vengono articolati attraverso disposizioni che, e non è ancora chiaro questo, che dovrebbero avere lo stesso valore dei trattati. La giurisprudenza della Corte Europea di Giustizia, diciamo già da alcuni anni, ha preso in considerazione le disposizioni della Carta e ci sono dei risultati molto interessanti da questo punto di vista, interessanti sia da un punto di vista negativo che positivo, perché per esempio se si pensa alla discriminazione di età o sulla base dell'età, e l'articolo della Carta viene invocato dalla Corte di Giustizia. Ma se si pensa ad altri diritti, nella sfera dei diritti collettivi, per esempio il diritto all'informazione e consultazione, la Corte ha dichiarato a febbraio che questo non è un diritto che può essere, a cui si può adire in maniera indipendente e individuale sulla base di questa carta. Quindi molti di questi valori fanno riferimento alla relazione di lavoro. Innanzitutto nel capitolo che riguarda la dignità c'è la proibizione del lavoro forzato, secondo l'articolo 5, e nel capitolo che riguarda la libertà si fa riferimento alla libertà di associazione a tutti i livelli, e soprattutto per quanto riguarda il nostro settore, la libertà di associazione in sindacati, la libertà di creare un'azienda, di condurre un'azienda e di lavorare. Ma si possono trovare delle disposizioni molto interessanti anche per quanto riguarda il capitolo sulla parità, l'articolo 21, con tutte le ragioni a favore della parità. La uguaglianza, la parità tra gli uomini e le donne e l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità, secondo l'articolo 26, questo è molto importante. Ultimo, ma non meno importante, troviamo anche un elenco di disposizioni che fanno riferimento al valore della solidarietà e che sono naturalmente collegate alla relazione di lavoro. Vorrei solo citare alcuni di questi valori, ce ne sono tantissimi naturalmente, ma alcuni sembrano essere molto importanti nel discorso di oggi, per esempio il diritto dei lavoratori all'informazione e alla consultazione, secondo l'articolo 27, che purtroppo la Corte Europea di Giustizia ha deciso che non ha un effetto diretto nelle vertenze private, e il diritto alla contrattazione collettiva e all'azione collettiva in caso di interessi in conflitto per difendere i propri interessi. Questo è l'articolo 28, questa è una disposizione veramente interessante, perché nella Carta si citano interessi, gli interessi non solo i diritti, ma ci ritornerò su questo punto, ma abbiamo anche i diritti individuali che riguardano, citati all'interno del capitolo sulla solidarietà. Ci sono due gruppi di diritti che sono assolutamente fondamentali secondo la mia prospettiva: il diritto alla protezione contro il licenziamento non giustificato, l'articolo 30, che è stato utilizzato dalla Corte Europea di Giustizia in maniera molto interessante, e il diritto alla protezione dal licenziamento quando basato sul congedo parentale o il congedo di maternità, che è qualcosa di cui si parlerà poi in seguito. Quindi, se consideriamo la prospettiva che ci viene offerta dalla Carta, allora si potrebbe vedere che gli interessi vengono richiamati due volte all'interno della Carta, ed ambedue i casi vengono richiamati sulla base della dimensione collettiva della relazione di lavoro. Innanzitutto il diritto di unirsi o di formare un sindacato per proteggere i propri interessi, e il secondo punto in cui vengono richiamati è il diritto alla contrattazione collettiva e all'azione collettiva in caso di conflitti di interesse o per difendere i propri interessi. Secondo il mio punto di vista, la Carta esamina i diritti collettivi come strumentali alla composizione delle vertenze o delle conflitti di interessi, piuttosto che per la protezione dei diritti già acquisiti. Inoltre, per parlare ancora dei diritti collettivi, vorrei dire che, poiché sono strumentali alla composizione degli interessi, i diritti collettivi devono per definizione essere esercitati prendendo in considerazione tutti gli interessi che sono riconosciuti dal sistema giuridico rilevante all'interno della relazione dei lavori. Quindi queste conclusioni, cioè il collegamento tra i diritti collettivi e gli interessi, viene confermato dall'articolo 1, paragrafo 3 della direttiva 2002/14, che è una direttiva molto importante, secondo cui quando si definisce o si attuano delle disposizioni pratiche per l'informazione e la consultazione, i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori lavoreranno in uno spirito di cooperazione, prendendo in considerazione i loro diritti reciproci e i loro obblighi precipici, prendendo anche in considerazione gli interessi sia dell'impresa o dell'istituzione che dei lavoratori. Cioè, gli interessi, secondo me, sono qualcosa di diverso dai diritti e degli obblighi nel discorso della legislazione europea, soprattutto per quanto riguarda il settore dei diritti collettivi. Si tratta di una cosa molto interessante, perché se guardiamo alla relazione di lavoro dal punto di vista dei diritti collettivi, poiché sono strumentali alla composizione degli interessi, i diritti collettivi devono prendere in considerazione, cioè riconciliando, tutti gli interessi che sono riconosciuti come importanti dall'ordinamento giuridico. sia che vengano dall'interno che dall'esterno della relazione di lavoro. Cioè, se noi esaminiamo innanzitutto gli interessi che derivano dall'interno della relazione di lavoro, beh, è chiaro a questo punto che il diritto del lavoro è stato inventato proprio per regolare la relazione tra gli interessi dei datori di lavoro e i lavoratori. E si sta parlando di diritti collettivi. All'interno di questa prospettiva, cioè la prospettiva della regolamentazione collettiva della relazione di lavoro, anche il conflitto e la partecipazione vengono o potrebbero essere considerati come valori di per sé. Il valore della partecipazione e il valore del conflitto. Questo è stato un valore molto importante in tanti anni, soprattutto per quanto riguarda il diritto del lavoro collettivo italiano. Ma cosa è più importante, il conflitto o la partecipazione? Beh, questo dipende soprattutto dall'enfasi che l'ordinamento giuridico mette su un altro valore molto importante, che è la libertà di condurre un'azienda. Vediamo ancora gli interessi interni. Dall'enfasi che si dà alla libertà d'impresa si possono trarre grandissime conseguenze anche su quei diritti che definiscono i valori che vengono riconosciuti in quanto valori dallo stesso ordinamento legale. Quindi, ritornando alla giurisprudenza della Corte Europea di Giustizia, possiamo prendere un esempio fondamentale da questa giurisprudenza che riguarda appunto la parità di remunerazione tra uomini e donne. Si tratta di un esempio piuttosto vecchio, ma che è ancora molto importante in questo settore della pari opportunità. Si tratta del caso Bilka Kaufhaus. È stato dichiarato che sono le corti nazionali che devono determinare se e fino a che punto le motivazioni esposte da un datore di lavoro per spiegare l'adozione di una pratica di remunerazione che si applica indipendentemente dal genere del lavoratore, ma che in realtà impatta di più sulle donne che sugli uomini, può essere considerato giustificato in maniera oggettiva sulla base dei motivi economici. E quindi questo è veramente un caso interessante. E il caso va avanti, o la Corte va avanti, dicendoci che se la Corte, il Tribunale Nazionale, cioè quella nazionale, il Tribunale Nazionale trova che le misure scelte da Bilka corrispondono a una vera necessità da parte dell'impresa e sono appropriate con l'obiettivo di raggiungere gli obiettivi perseguiti, sono necessari per questo scopo, il fatto che le misure abbiano un impatto su un numero più grande di donne che di uomini non è sufficiente per dimostrare che questo costituisce una violazione dell'articolo 119 del trattato. E quindi a questo punto passiamo a parlare degli interessi al di fuori della relazione di lavoro, ma ci tornerò poi in seguito su questi punti. Quindi vediamo quelli che sono gli interessi esterni. È chiaro che solo apparentemente i datori di lavoro e i lavoratori sono gli unici interessati nella relazione di lavoro individuale. Prima della nascita della teoria degli stakeholders, in molti sistemi giuridici europei gli interessi pubblici e i diritti dei cittadini sono stati presi in considerazione. Vorrei a questo punto darvi un esempio molto semplice, cioè quello delle azioni collettive sui servizi essenziali. Se pensiamo all'Italia, alla Spagna, alla Francia e ora qualcosa si sta provando a fare anche in Germania, c'è naturalmente una grande giurisprudenza sull'interferenza tra i diritti degli interni, degli insider, e la prospettiva degli outsider dal punto di vista dell'interesse pubblico e dei diritti dei cittadini, e questo potrebbe portare ad una limitazione dell'esercizio dei diritti collettivi. L'importanza degli interessi e dei valori che derivano dall'esterno ha portato ad una specie della deprivatizzazione, una specie di deprivatizzazione della relazione di lavoro a favore degli interessi pubblici. Quindi sempre di più gli interessi esterni stanno impattando sulla relazione di lavoro. Cioè a sei minuti. Tanto che ha portato alla precarizzazione dei diritti acquisiti, che sono l'espressione di valori che sembrano di essere intrinseci alla relazione di lavoro individuale. Quindi il punto è come riuscire a riconciliare gli interessi e i valori interni ed esterni. Nella tradizione legale dell'Europa continentale, cioè in quella continentale, la riconciliazione degli interessi che provengono dall'interno e dall'esterno della relazione di lavoro, prendendo in considerazione i valori, è sempre stata una questione di mediazione, soprattutto da parte delle autorità politiche. Naturalmente, in un sistema di governo a molti livelli, come è quello dell'Unione Europea, è diventata una questione di mediazione a molti livelli, fornita dalle autorità nazionali e sovranazionali, non necessariamente autorità politiche. Ciò che voglio dire è che naturalmente c'è una miscela di autorità, di istituzioni che svolgono un ruolo in questa mediazione tra interessi interni ed esterni, e questo è ben evidente in ciò che possiamo chiamare la regola dell'eccezione, che è un gioco di parole, regola ed eccezione. Per esempio, guardiamo a questi tre domini del diritto del lavoro europeo, e sarò molto breve perché poi questi verranno affrontati anche dai relatori successivi. Questa regola dell'eccezione sta svolgendo un ruolo importantissimo per quanto riguarda il principio delle pari remunerazione tra uomini e donne, Seymour e Smith, e anche per quanto riguarda la previdenza sociale, il caso di Telling. Anche questo è molto importante, anche per quanto riguarda la discriminazione di lavoro, per esempio Palacio de la Villa. Nei 4-3 minuti che mi rimangono non posso darvi tutti gli esempi che vorrei darvi, ma dovete credermi, ci sono tanti esempi anche per quanto riguarda la previdenza sociale. Questo è un caso sulla previdenza sociale dove la Corte dice che l'eccezione serve ad assicurare un reddito di sussistenza minimo per i beneficiari che sono necessari per questo scopo. E quindi vorrei concludere su questo punto che riguarda la discriminazione sulla base dell'età. Poi stiamo parlando della direttiva che permette delle eccezioni, ma qui sin dall'inizio abbiamo la disposizione della direttiva 2000 che permette agli stati membri di una differenza di trattamento sulla base dell'età non costituisce una discriminazione se giustificata da uno scopi legittimi come politiche di occupazione e dal mercato del lavoro, e se è ed è un mezzo legittimo per raggiungere obiettivi che sono appropriati e legittimi. Ci sono alcuni casi su questo, ma questo è molto interessante perché dimostrano come l'eccezione viene giustificata dalla relazione che esiste tra gli interessi all'interno della relazione di lavoro e gli interessi che derivano dall'esterno della relazione di lavoro, anche se sembrano ambedue provenire dall'interno, per esempio l'interesse di altri lavoratori ad essere assunti al posto dei lavoratori più anziani. Per esempio abbiamo questo caso danese che fa riferimento a indennità che sono disponibili solo a persone che hanno una certa età o una certa anzianità di servizio, cioè che hanno lavorato in un'azienda per un certo numero di anni. Questa eccezione è accettabile? Beh, nel caso di Anderson il tribunale ha detto no. O nel caso di Kucderci, che è un caso molto interessante sulla discriminazione per età, e giovani che sono assunti non hanno un diritto totale all'indennità di licenziamento, e naturalmente questo va contro la direttiva europea. Ultimo, ma non meno importante, il caso di Petersen, in cui si sottolinea che l'eccezione può essere accettata, ma sono i tribunali nazionali che devono identificare l'obiettivo che legittima l'azione. Sicuramente è interessante sottolineare questi casi quindi giurisprudenziali. Possiamo dire quindi che c'è un ruolo fondamentale che viene svolto sia a livello europeo ma anche a livello nazionale, perché sono i giudici nazionali, i magistrati nazionali che devono valutare se la politica pubblica soddisfa i requisiti per l'eccezione. Quindi a questo punto vorrei fare questa citazione dal mondo del cinema, ed è per questo che parlo della nascita dei custodi. La mia citazione non è elegante, ma devo dire che i magistrati oggi stanno diventando i custodi di questi diritti, con l'idea di riconciliare assieme gli interessi degli esterni e degli interni. E qui c'è una grande immagine di Babbo Natale, una specie di Babbo Natale caricaturale. Grazie. Sorry, thank you very much, dear colleague, for this. Grazie per questa introduzione che diciamo da un punto di vista legale, e questo ci porta alla domanda che segue, cioè cosa possiamo dire della pratica. 2 settimane fa ho fatto un'introduzione dei direttori delle politiche sociali dell'Unione Europea e dovevo parlare di quali tipi di diritto del lavoro, diritto sociale dovrebbe esistere per raggiungere gli obiettivi dell'agenda di Lisbona del 2020. Cosa dovrebbe fare cioè l'Europa nel prossimo futuro? Ed è chiaro, voglio discutere di questo proprio con lei. Ho dovuto iniziare dal fatto che l'Unione Europea a questo punto non è competente per il costo del lavoro, la remunerazione e la libertà di associazione, il diritto allo sciopero, la previdenza sociale è a livello nazionale, la contrattazione collettiva avviene a livello nazionale. Quindi se si guarda alla carta dei salari minimi nell'Unione Europea, allora le differenze sono veramente sorprendenti tra i vari paesi. E se vado dal mio paese, più di 1500 euro al mese fino a sotto 100 euro al mese in Bulgaria e Romania. Sono stato in Polonia in una conferenza e uno dei rappresentanti dei datori di lavoro ha detto beh, il problema della Polonia sono i costi del lavoro e il salario minimo è 400 euro lordo. Quindi abbiamo un'Unione Europea che non è competente per la questione questione fondamentale del diritto del lavoro. Naturalmente ci sono altri punti, delle pari opportunità per esempio, ma sicuramente l'Europa sull'essenza dei valori deve essere, non è ancora competente, quindi possiamo parlare di xenofobia, per esempio Cameron che dice rivogliamo la nostra sovranità, ma qual è il consiglio che possiamo dare? Cosa possiamo fare per quanto riguarda la situazione reale dove le aziende cercano il costo del lavoro più basso e dove l'Europa promuove il dumping sociale? Quindi questa è la prima domanda. La mia risposta, l'ho già data questa risposta al professor, c'era il professor Weiss, è la contrattazione collettiva transnazionale, questa è l'unica risposta, cioè lei ha perfettamente ragione, e una volta che l'Europa ha deciso di non avere competenze sul costo di lavoro, sui salari, sulle azioni collettive, sulla libertà di associazione, questo è stato un grande errore da parte dell'Europa, che è stato sostenuto anche dai sindacati, e questo è curioso e sorprendente allo stesso tempo. Ma credo che nel contesto legale presente si può affrontare questo problema solo attraverso la contrattazione collettiva transnazionale che, secondo me, l'ho scritto nella relazione del 2006, deve essere sostenuta dal diritto europeo sulla base della regolamentazione di coordinamento, introducendo un quadro opzionale per la contrattazione collettiva transnazionale. Manfred, per favore, non un discorso, ma solo un commento. C'è qualcun altro che vuole intervenire? Alex ed io abbiamo un conflitto continuo su come vogliamo la contrattazione transnazionale, ma voglio ritornare a quello che hai detto tu, Roger, hai ragione, queste cose che vengono escluse, cioè i salari, eccetera, questi rappresentano il vero problema, ma vorrei togliere quello che secondo me è un mito dal discorso, ma chi l'ha fatto questo? E qui a questo punto allora, e devo pronunciarlo in maniera corretta, dobbiamo ritornare a Maastricht, l'ho pronunciato bene, Maastricht, dobbiamo ritornare a Maastricht. Prima di Maastricht abbiamo discusso moltissimo su quello che bisognava fare nella sfera sociale, la Commissione si è stancata perché le parti sociali dicevano sempre non sosterremo mai qualunque cosa voi direte. E chi l'ha scritto il protocollo sociale quindi? Una sera con tantissimo champagne, le persone che rappresentavano l'Europa dei business e della LETUC hanno, proprio alla fine della conferenza di Maastricht, hanno creato questo testo. È una lezione molto importante che dobbiamo ricordare, perché ci dice chi è responsabile di tutto questo, sono le parti sociali che non volevano perdere il potere su questi aspetti, questo è il problema, e gli altri semplicemente hanno chiuso gli occhi e non hanno fatto niente. Quindi se parliamo di Europa dobbiamo dire bene chi intendiamo, sono le parti sociali che sono responsabili per questo, e quando incontro i sindacati e le associazioni dei datori di lavoro io sempre glielo ricordo, i sindacati adesso se ne pentono amaramente, ma è troppo tardi. Professor Susan Bishop Rapp, from the United States, San Diego. Dagli Stati Uniti la professoressa Rapp, San Diego. Beh, grazie molto per questa introduzione mattutina molto interessante, e ho apprezzato molto che vi siano valori fondamentali, dignità, libertà, uguaglianza, solidarietà, che siano stati menzionati. La tesi è pertanto che the Court of Guardians, quindi i guardiani di questi valori, siano lì appunto per proteggere questi valori, valori chiave di cui lei ci ha parlato oggi, che mi sembrano essere target mobili in realtà, dei contenitori vuoti in qualche modo. Come determiniamo però il bilancio, l'equilibrio di interessi, quanto siamo liberi di condurre l'attività, quindi in che misura esiste la libertà di impresa, libertà, solidarietà? A un certo punto non hanno senso, se vogliamo considerare appunto la libertà di impresa. Quindi mi chiedo come si possa suggerire che il giudice realmente comprenda il valore di questi valori all'interno di una certa giurisdizione nazionale. Una reazione breve, una risposta breve per cortesia. Sì, grazie per la domanda, Susan. Sono contrario al fatto che questi guardiani e custodi siano dei giudici, naturalmente era inteso a livello provocatorio, quindi la mediazione politica secondo me dovrebbe ancora essere quella che è centrale nel processo di riconciliazione, ed è chiaro in realtà dalle osservazioni di Roger Dampin e Weiss che in Europa esiste una situazione di mediazione politica all'interno della sfera sociale, no? Quindi il caso Laval e l'azione collettiva fa chiaramente capire che la mediazione avviene attraverso dei giudici secondo un loro parere, opinione, legata normalmente a dei modelli che non identificano chiaramente in che paese, all'interno di quale tradizione tutto ciò si sia sviluppato, no? Però dobbiamo essere consapevoli del fatto che parliamo dell'ex Unione Economica Europea e quindi sulla libertà di impresa che costituisce uno dei punti fondamentali del costrutto europeo, quindi poi sopra ci si può mettere ciò che si vuole, ma è molto difficile liberarsi di tutto questo, di questa eredità nel breve. Bene, chiudiamo con un'osservazione che potremmo considerare anche gli statement del professor Weiss, se questo sia storicamente totalmente corretto, perché in Europa vi sono sindacati potenti, mi riferisco a quelli scandinavi per esempio, che dicono ok, possiamo fare tutto a livello nazionale, locale, eccetera, l'Europa non ci serve, ma poi ci sono una serie di paesi in cui i sindacati sono deboli e lì invece serve più un intervento europeo. Ricordo Thatcher, Major, quando nei trattati di Maastricht dicevano no su questo. E in realtà era la politica alla fine a prendere le decisioni, si poteva solo intervenire limitatamente in Europa, quindi l'Europa secondo me è in sostanza una scatola vuota, no? Quindi i fondamentali mancano, non ci sono, probabilmente non ci saranno neanche fino a quando ci saranno i miei pronipoti. Comunque ringrazio il nostro keynote speaker per averci dato un argomento di trattazione sicuramente molto interessante. Adesso le relazioni, le selected papers, quindi le relazioni selezionate dei nostri oratori, quindi ne sentiremo di più con Amsterdam, interviene con una collega, si parlerà appunto della discriminazione con Susan Burry di Utrecht, l'Università di Utrecht, quindi noi parliamo la stessa lingua. Lei ci parlerà in particolare delle questioni di equilibrio lavoro-vita privata nel diritto olandese, quindi è un anche equilibrio di poteri, come si è detto, quindi equilibrio fra lavoro e famiglia e vita privata. Quindi ricominciamo con i soliti 5 minuti per domande. Grazie molto al professor Blancpain, grazie agli organizzatori della conferenza per avermi rivolto l'invito a partecipare, e oggi guarderò e considererò alcune delle prospettive della legge esistente sulla equilibrio lavoro-famiglia nella legislazione europea e in quella olandese. Farò un raffronto fra le due e poi parleremo anche di alcune in breve di alcune della giurisprudenza che ritengo sottolinea alcuni punti di interesse. Naturalmente importante sarà la comparazione fra con la nuova legge. In realtà io non penso che l'Unione Europea debba essere considerata come una scatola vuota, ma spero che appunto potremo condividere qualche idea in questo senso. Quindi cosa si può fare in questo senso, e quindi in che misura l'Unione Europea e la legislazione dell'Unione Europea e neerlandese possono contribuire meglio a una condivisione di responsabilità fra uomo e donna, e in che misura aiuta a combattere i ruoli tradizionali e stereotipati fra uomo e donna in quest'area, no? In primo luogo, questa sono le linee generali, cercherò appunto di valutare la legislazione europea e quella del mio paese, poi tirando delle conclusioni. Quindi l'importante è considerare la divisione fra lavoro e cura all'interno dell'Unione Europea. Le differenze fondamentali sono statistiche Eurostat queste, che hanno reso possibile appunto il raffronto. Le più recenti che ho trovato in tal senso sono quelle del 2013, con il full time equivalente, l'FTE, quindi la percentuale di impiego uomo-donna, come vedete, in full time equivalente rispetto all'occupazione totale. Vedete che c'è un divario sicuramente per quanto riguarda il tasso di occupazione part time, e questi dati sono molto più sentiti ancora in Olanda, in particolare per quanto concerne appunto il part-time, come potete vedere, rispetto all'impiego totale. Vedete che la percentuale del part-time è molto elevata, 3 donne su 4 lavora part-time, e comunque 1 uomo su 4 lavora part-time, quindi il lavoro non remunerato nella cura per esempio della famiglia dei figli dimostra che le donne lavorano 2 volte di più appunto in questo campo, cioè lavoro non remunerato. Le donne si occupano 2 volte di più delle cure familiari rispetto agli uomini. Ora vediamo il concetto di famiglia. Ci sono diversi concetti di famiglia qui, un nuovo concetto, no? Che magari non vi sareste aspettati da me. E quindi vediamo cosa questo significhi in pratica. Allora, alcuni strumenti dell'Unione Europea e la giurisprudenza, abbiamo delle direttive specifiche, per esempio la direttiva sul congedo parentale, sul congedo di maternità, sul pari trattamento economico, già stato menzionato dal collega Alex, e la direttiva la rifusione della direttiva 2654 relativa ai licenziamenti, e poi l'articolo sulla riconciliazione, che naturalmente costituisce un approccio di natura più limitata, quindi inerente il congedo parentale e il congedo di maternità, ma ci torneremo più avanti. E qui una visione d'insieme delle dispositive più importanti inerenti la gravidanza, in particolare la protezione e la tutela dalla dismissione, dal licenziamento per le donne in gravidanza, e abbiamo sentito ieri molte questioni inerenti anche alle forme di lavoro precario, i lavori anche contratti anche a tempo determinato, cosa molto importante, per esempio il caso Teledanmark. Poi c'è una proposta ancora in corso che dovrebbe prolungare il periodo di congedo di maternità e parentale a 20 settimane totalmente remunerate. Gli stati membri rispetto a questa proposta si sono espressi in senso contrario, quindi non soltanto le parti sociali a volte non promuovono queste proposte, ma a volte anche, anzi è più sicuramente, più certamente lo fanno gli stati membri. Qui è importante sottolineare che la proibizione della discriminazione sessuale diretta, che troviamo in molte direttive, in particolare nella rifusione della direttiva, si applica anche alla gravidanza, alla discriminazione per gravidanza, maternità. Importante il caso Decker case, il caso Decker, accesso all'impiego rifiutato a una donna proprio perché in gravidanza, contrario naturalmente a questa legislazione europea, pertanto non vi era giustificazione possibile e le argomentazioni finanziarie non possono essere assolutamente accettate in questi casi di discriminazione, e naturalmente non si può fare un raffronto col trattamento riservato invece ai lavoratori uomini, e questo appunto è stato considerato nella direttiva, nella rifusione della direttiva 2006/54. Vorrei sottolineare anche il punto della risoluzione di un contratto a tempo determinato per una donna in gravidanza, è anche contrario alla direttiva 2006/54 sulla discriminazione sessuale diretta. Poi ci sono un'altra serie di casi, per esempio McKenna, Gasmaer, Parviainen, sono tutte giurisprudenze in materia e contengono delle disposti sulla direttiva congedo maternità. In questo caso le corti si sono espresse in modo più restrittivo in termini di interpretazione. Per esempio McKenna era sul congedo per malattie, le altre due erano invece su ulteriori elementi aggiuntivi inerenti alla remunerazione. Adesso parliamo della direttiva sul congedo parentale 2010-18, un accordo quadro, la nuova direttiva elimina la precedente e si applica ai lavoratori part-time, a quelli a tempo determinato e agli interinali. Include anche diritti individuali in via di principio non trasferibili, fino a 4 mesi di congedo di maternità e non remunerate. E menziono adesso in breve la differenza esistente fra il caso Merz e il Gomez-Lemon. Il caso Merz sulla retribuzione in caso di licenziamento, e qui va considerato il periodo di lavoro prima dell'inizio del congedo di maternità di un lavoratore part-time, ma in realtà la persona lavorava prima di essere licenziata a tempo pieno, pertanto maggiori tutele vanno date a questi lavoratori, il calcolo va effettuato sul contratto a tempo pieno. E normalmente appunto i diritti parentali concessi sono stati molto ridotti, anche nel caso Gomez-Lemon abbiamo avuto un approccio similare, con appunto una restrizione notevole dei diritti del lavoratore. Casi molto interessanti però, perché pare che i tribunali siano contraddetti sulla questione del lavoro part-time e full-time, e se questi potessero essere raffrontabili almeno nelle due giurisprudenze prese in esame. Adesso vediamo alcune forme di discriminazione qualche requisito che potrebbe essere una forma di discriminazione sessuale indiretta. Il professor Ales ha già menzionato il caso che è stato che risale al 86, al 1986, e che è stato applicato poi in molte altre sentenze, e con questa definizione, per esempio nella refusione della direttiva, ma anche in quella del 2000 sulla discriminazione indiretta, dove troviamo lo stesso testo come nel Becker-Kaufhaus. Per esempio, criteri come la mobilità sono stati considerati come potenzialmente forme discriminatorie rispetto alle donne che hanno responsabilità o che si occupano di cuore all'interno della famiglia. Per esempio la mobilità, il caso Danfoss, per esempio mobilità intesa come possibilità di lavorare ore diverse oppure ad orari variabili, o in postazioni di lavoro diverse. Questo naturalmente rende le cose difficili per una donna che abbia anche doveri di cura all'interno della famiglia, cosa che è stata trattata esplicitamente all'interno nella trattazione del caso. In questo caso l'elemento della remunerazione è stato fondamentale, il trattamento è stato discriminatorio per compiti specifici, per esempio l'applicazione di questi criteri potrebbe essere giustificata oggettivamente. Quindi lo scopo deve essere legittimo, i mezzi devono essere appropriati e necessari. Vediamo all'argomento della comparabilità, raffrontabilità, per esempio quella dello Österreichischer Gewerkschaftsbund, il caso dei sindacati austriaci, un periodo per esempio di assenza dovuto a congedo parentale, e se si possa effettuare un raffronto per esempio fra queste e il servizio militare. La Corte ha deciso che queste due situazioni e queste due condizioni non sono direttamente raffrontabili, perché in una situazione quella di congedo parentale coinvolge degli interessi individuali anche nel contesto in cui manchino delle facilities per il congedo parentale, mentre l'altro va in direzione dell'interesse pubblico, anche se per esempio l'individuo è in servizio volontario. Quindi le due situazioni secondo il Tribunale non sono paragonabili, quindi fine della storia per quanto concerne la legislazione europea. Questo però contraddice il principio di uguaglianza, e il Tribunale ha rafforzato il concetto di della differenza fra le due questioni, una privata, una pubblica, quindi senza riconoscere nuovamente tutta la questione correlata alla cura prestata alle donne all'interno della famiglia. Quindi vediamo da un lato un approccio molto formale alla questione dell'uguaglianza, che viene illustrato qui, quindi per garantire una selezione equa farete tutti lo stesso test e tutti dovete salire su quell'albero, ed è chiaro che questo è molto più difficile per l'elefante o per un pesciolino piuttosto che per una scimmia, no? Quindi la difficoltà è eseguire un certo... E gli olandesi in questo disegno, in questa vignetta, dove sono? Quindi questa è la raffrontabilità, appunto, cosa è rilevante e cosa non lo è. Per quanto concerne alcuni dei valori, vorrei sottolineare che il valore del congedo parentale è stato riconosciuto anche nel caso Schatzi, anche in relazione a un principio generale di parità di trattamento che è stato applicato effettivamente a questo caso. Qui si vede quale sia il valore aggiunto di un principio generale del parità di trattamento alla luce della Carta, riconosciuto già dalla giurisprudenza pronunciata alle Corti, come già si è sentito dire nel corso della mattinata, ma qui anche c'è un legame forte con questo disposto sulla questione della riconciliazione. E in definitiva poi sono il Tribunale nazionale che deve interpretare l'applicazione di un principio principio generale di parità di trattamento nel caso specifico. In questo caso erano genitori di gemelli e quindi se potessero prendere appunto un congedo parentale doppio a causa di questa condizione specifica. E poi vorrei vedere con voi un altro caso che può essere problematico, è quello dell'approccio alla maternità nella giurisprudenza trattata dai tribunali rispetto al congedo parentale, alla genitorialità. A volte si rafforza la protezione della madre dopo la morte, però che dire dei padri che vorrebbero occuparsi dei propri figli. Allora il caso Hoffman è un caso del 94, ma abbiamo avuto anche un altro caso, il caso Mantul, la riconciliazione fra la vita familiare, il lavoro e l'uguaglianza venivano a questo punto legati all'interno del caso trattato dalla Corte di Giustizia. Qui per esempio nel caso il Gerster, riconciliazione e correlazioni con l'uguaglianza fra uomo e donna, e Alvarez diceva appunto che c'erano dei diritti derivati dai padri dal diritto della madre, dove la madre non ha tale diritto derivato, che andava contro la legge dell'Unione Europea, la legislazione europea. Quindi se i padri e le madri non hanno diritti simili in questo campo, in quest'area, allora questo può perpetuare la distribuzione tradizionale dei ruoli uomo-donna, mantenendo l'uomo in un ruolo sussidiario a quello della donna in relazione all'esercizio dei doveri parentali. Bene, molto progressista suona questa idea, no? Da parte del tribunale, ciononostante nel caso Montul molto simile, il tribunale è tornato appunto al concetto di maternità. Ancora 5 minuti, viene espresso sia in inglese che in olandese, giusto per chiarire. Questo approccio lo abbiamo visto anche in relazione ai diritti delle madri in caso di madre surrogate, dove ieri la Corte ha deciso che non c'era diritto appunto alla maternità in caso di madre surrogata. Allora, la legge europea, vediamo un declino dei diritti, della scala dei diritti, non diritto a una congedo di maternità retribuito, pochi o nessun social security, nessun diritto a accordi sul lavoro flessibile, ruolo potenziale che potrebbe avere la carta, e poi non protezione del congedo di maternità, nessun diritto agli accordi di lavoro flessibile, anche se ci sono alcuni accordi sulla flessibilità, anche se non è chiaro ancora di che tipo di flessibilità si tratti. E qui vorrei sottolineare appunto il ruolo potenziale della Carta dei diritti, anche se non ci sono molti esempi della sua applicazione, anche il problema della comparabilità e della protezione della maternità rispetto alla genitorialità. E adesso in breve alla legislazione olandese, con tre diverse questioni all'interno del nostro sistema legislativo: la parità di trattamento, che è molto simile alla legislazione europea, poi l'adeguamento degli orari di lavoro, i doveri del datore di lavoro nel considerare circostanze personali della forza lavoro questioni inerenti al congedo parentale, e poi altre questioni inerenti alla discriminazione sessuale indiretta nell'accesso al lavoro o inerenti desideri espressi rispetto agli orari di lavoro, per esempio se gli lavoratori esprimono desiderio di lavorare in certe ore, questo naturalmente anche per tenere conto della disponibilità di strutture di cura per i figli eccetera, si applica il concetto appunto della discriminazione sessuale indiretta, basandosi sulla presunzione di statistiche nazionali, che potrebbe essere un elemento addizionale da tenere in considerazione. Quindi vi è la possibilità di modificare gli orari di lavoro, quindi aumentandoli o diminuendoli naturalmente su base individuale, se il dipendente desidera farlo. Naturalmente deve essere però già soggetto a contratto di impiego da un anno presso l'azienda, e si può richiedere in questo caso una riduzione dell'orario di lavoro, che deve essere garantita a meno che non vi siano gravi motivi aziendali per non farlo. L'orario di lavoro, il desiderio rispetto all'orario di lavoro vengono di solito concessi, vengono considerati anche se non ci sono molti esempi in tal senso. Non ci sono casi di riduzione dell'orario di lavoro temporaneo. Per quanto concerne gli orari di lavoro, c'è una proposta che sicuramente molto interessante. Congedo a breve termine in caso di malattia, si remunera il 70% in caso di un congedo di una assenza dal lavoro per 2 settimane, oppure massimo 12 settimane per coloro che lavorano part time. Questo potrebbe essere comunque un elemento al quale ispirarsi per l'Unione Europea, se naturalmente gli Stati membri e le parti sociali fossero in grado di trovare mai un accordo su questi punti. Però non si tengono conto invece dei rischi correlati al lavoro part-time, meno reddito, meno possibilità di carriera, eccetera. Quindi forse ci saranno altre possibilità da considerare in futuro. Conclude? Yes. I think it's a step, in 30 seconds, step by step process. È un processo step by step, stiamo andando quindi verso maggiori diritti e abbiamo già visto tutta una serie di casi trattati dalla Corte di Giustizia, abbiamo visto le diverse tutele all'interno del sistema legislativo europeo, non ci sono nella legge olandese la perdita di reddito è stata considerata, ci sono tutta una serie di proposte nel mio paese. E quando si parla di flessibilità è molto importante chiedersi di che tipo di flessibilità si tratti, cioè per andare incontro ai desideri del lavoratore o no. Anche l'influenza sull'orario di lavoro può essere interessante e cruciale per i genitori singoli, e specialmente se non ci sono delle strutture disponibili. Per esempio pensiamo alla riduzione del lavoro temporaneo, se considerano la giurisprudenza della Corte di Giustizia, a volte vi è il pericolo di rafforzare quelli che sono i ruoli tradizionali fra uomo e donna, ma d'altro canto ci sono tutta una serie di prospettive sfidanti che spero aver condiviso sufficientemente con voi. Grazie per l'attenzione. Thank you indeed for your attention, sì, grazie davvero a tutti per l'attenzione, ma qui manca l'H, no? Tank è un tank, è un contenitore, mentre no, però è norvegese la scritta tank senza l'H, quindi siamo in un contesto multilingue, linguistico, quindi interessante l'argomento trattato, molto interessante. Vediamo che il problema olandese in realtà poi diventa un paese comune a molti altri. Chi si cura dei bambini? Questa è la questione fondamentale, no? Alla fine chi se ne occupa? Chi lo decide? Sono le parti che lo decidono? Sono l'uomo e la donna? O come trattare la questione? Perché questa è la questione di base, sostanzialmente, nella interessantissima presentazione che lei ci ha fatto si è parlato di coloro che hanno un lavoro, e poi magari si contratta sul tipo di protezione, sulle possibilità di cure, eccetera. Ma una famiglia come fa? Non so, una famiglia con 5 bambini che arrivano tutti a casa alle 5, 5, che cosa si fa? La madre deve esserci, no? Ci deve essere qualcuno a curarsene, se no sono lasciati a se stessi in strada. Questa è una delle considerazioni, magari ce ne sono anche altre, non so, c'è qualcuno che vuole dire qualcosa su questo argomento? Non discriminiamo, va bene, rapidamente sentiamo tutti, prego. Noi non discriminiamo sulla base neanche dell'età, quindi tutti devono correre, anche gli anziani. Lei è? E sarebbe gentile se il signore attivasse il microfono. Michael Fischel, I teach at the University of Connecticut. Michael Fischel, Connecticut, Stati Uniti, ma c'è di peggio, potrebbe insegnare in Belgio. Sì, però il tempo non è così bello come da noi a San Diego. Bene, la domanda è sul caso in cui il congedo parentale non poteva essere raffrontato, invece è il caso del soldato, no? Del caso del soldato, del congedo. Mi chiedevo da che paese però provenisse quel soldato lì. No, quindi raffrontabilità del congedo parentale o di maternità e quello militare, ma in realtà non lo so perché non c'era scritto. Purtroppo l'opinione era molto formale. E purtroppo lì eravamo proprio in un contesto di mancanza di strutture dedicate ai bambini, quindi sostanzialmente eravamo fuori da una città e pertanto non vi erano le strutture idonee e non c'erano anche incentivi per un congedo parentale, cioè lo si diceva, però poi non era considerato come una cosa importante. Thank you, Suzanne, for the very... Grazie Suzanne per l'interessantissima presentazione. La mia domanda è invece in relazione al processo step by step, quindi l'innovazione legislativa graduale, step by step. E qui la stampa ha parlato del problema delle donne che vanno in pensione e quindi il raffronto uomo-donna nel Regno Unito e negli Stati Uniti. Le donne possono due volte di più dell'uomo con il rischio di essere in povertà dopo la pensione. Mi chiedevo se questo non fosse un problema che inizia molto prima, cioè prima che le donne entrino nel mondo del lavoro. Quindi abbiamo sviluppato un modello multifattoriale che considera tutti gli svantaggi ai quali sono esposte le donne, le giovani donne durante il corso della loro vita. Abbiamo considerato anche il loro ruolo in politica. Spesso la donna purtroppo è svantaggiata per tutto il corso della vita e quindi la questione della donna è molto importante, ma lei si riferiva al fatto della donna considerata nel periodo riproduttivo, perché quando si parla di caregiving non si tratta solamente della questione dei figli, le donne si prendono comunque cura dei parenti, dei genitori che invecchiano, del loro compagno, del marito, cosa che fa parte dei ruoli tradizionali. Quindi mi chiedo questo processo step by step cosa voglia dire, se si fa una legislazione step by step piecemeal, è una sorta di incrementalismo, in realtà quindi si corre il rischio di non trattare il problema in maniera globale. Questo è il problema dello step by step, che secondo me va in favore dello status quo. Short answer, then Manfred Fresno, we stop. Do I have to Germans. You are the chair. Well, he is a chair. I'm very much in agreement with Susanna. Il microfono è spento. Sono d'accordo con lei, ma non con lei. Io credo che questo approccio passo passo è un approccio che funziona da tempo, ma è molto difficile se si procede in questo modo. Voglio fare l'esempio esempio del mio paese, la Germania, non è, si tratta di un esempio che va a favore della Germania. Noi abbiamo una legislazione eccellente in Germania sul congedo parentale che cerca di fare quanto segue. La madre può avere l'intero congedo parentale se anche il padre prende il congedo parentale per un certo periodo di tempo almeno. Questo ha portato al fatto che diversi padri adesso prendono il congedo parentale perché altrimenti la moglie non lo può prendere, ma adesso la ricerca ci ha dimostrato quello che è lo svantaggio sociale che questi padri devono soffrire non solo da parte dei datori di lavoro, ma soprattutto da parte dei loro colleghi. E questo vi dimostra che l'atteggiamento, la consapevolezza nel paese non è quella che ci aspettavamo che ci fosse, e non si può cambiare così velocemente con una legge facendo qualcosa di straordinario, ma come è stato detto si può cambiare solo passo passo. Rispondo anche al commento che ho fatto io. Cosa si può dire per quanto riguarda i genitori che devono decidere cosa fare, lavorare, non lavorare, part time, eccetera, perché questo è un problema fondamentale che non si risolve con la legge, è un rapporto tra genitori. Beh, il problema fondamentale è quello culturale, ma anche quella che è la prospettiva di guadagno degli uomini e delle donne, naturalmente il 70% e anche in Olanda il 70% delle donne, nel 70% dei casi la prospettiva di carriera svolge un ruolo, e tutti questi fattori poi hanno un impatto sulle scelte individuali. Per quanto riguarda poi questo approccio passo passo, per così dire, vorrei sottolineare che noi siamo arrivati dal 57 con questa disposizione sul pari trattamento economico, e devo dire piano piano ci siamo arrivati. Ma adesso è stata citata questa questione delle pensioni, recentemente la professoressa Francesca Beccio ha parlato del gender gap nelle pensioni che è uguale al 39%, e questo di nuovo è il risultato del percorso carrieristico che è stato seguito non solo, non da tutti gli uomini, da tutte le donne, naturalmente qui facciamo una generalizzazione e non dovremmo mai farla, ma mi colpisce che il professor Weiss dice adesso c'è una ricerca che mostra gli svantaggi sofferti dagli uomini che prendono il congedo parentale, e adesso questi svantaggi non venivano finora sopportati solo dalle donne, adesso invece anche gli uomini. E poi naturalmente adesso c'è la crisi, ci sono paesi che hanno che soffrono una crisi profonda. Come si possono affrontare questo divari salariale? Non è una risposta facile che posso dare, abbiamo bisogno di politiche differenziate, ma quello che vorrei sottolineare a questo punto è che dobbiamo esaminare le forme collettive di solidarietà, ma allo stesso tempo anche alle forme di solidarietà individuali. Non c'è mai un'unica risposta, la risposta migliore. Tutti questi paesi stanno affrontando gravi difficoltà, e sicuramente i paesi del sud dell'Europa hanno più problemi rispetto ai paesi del nord come la Germania o l'Olanda. Ma come affrontiamo il lavoro di cura è molto difficile, soprattutto di fronte ad una società che invecchia. Quando parlo di cura non mi occupo solo di bambini, ma di tutti. Vorrei fare un commento. Credo che noi, in quanto esperti legali, dovremmo trovare dei modi per risolvere le cose. Alcune cose cose possono essere risolte con delle regole e regolamenti, ma molte delle cose che abbiamo affrontato quest'oggi hanno a che fare con la cultura, quindi non sopravvalutiamoci. Sono completamente d'accordo. Bisogna non sopravvalutarsi, soprattutto i giuristi tedeschi non devono sopravvalutarsi, soprattutto uno. E adesso dalla Duke University, Tina Jones, che parlerà di discriminazione sul lavoro nella legislazione europea. Innanzitutto vorrei ringraziare Jacopo Senatori per le sue competenze organizzative e gli organizzatori per avermi invitato. Vorrei ringraziare Jenny Rivers per la sua assistenza logistica. Ho imparato moltissimo nel breve tempo che ho passato in questa conferenza. Vorrei fare un commento. Ci sono tre mezzi attraverso i quali i diritti umani sono protetti: le disposizioni costituzionali, la legge statutaria e l'interpretazione giudiziaria di questo, e sono a livello statale e a livello nazionale. Marema parlerà del livello nazionale. Io ho un obiettivo semplice: in 20 minuti vi parlerò dell'evoluzione della legge antidiscriminazione degli Stati Uniti e vorrei discuterla. Parlerò con i lati positivi. Nel 2014 abbiamo l'anniversario della legge antidiscriminazione del 1964, ci sono state conferenze ed altri eventi che hanno sottolineato molte conferenze sono state organizzate per ricordare tutto questo. Nel 1964 potevano discriminare i datori di lavoro la legge, il titolo 7, la legge sui diritti, e il titolo 7 proibisce la discriminazione sulla base del sesso, della religione, ma sicuramente non ha eliminato la discriminazione, ma il suo simbolismo, il suo simbolo rimane. Il messaggio era che la discriminazione non era più accettabile da un punto di vista sociale. Inoltre ha dato la possibilità di fare ricorso in caso di discriminazione. Devo dire che adire alla legge non risolve le case di discriminazione sociale, non dà diritti sociali, ma può aiutare nei singoli casi. Lo statuto è stato esteso poi negli ultimi anni. Per esempio, a causa del lavoro delle femministe come Catherine McKinnon, il titolo 7 adesso include quid pro quo e l'harassment sessuale. E grazie a femministe nere, adesso è stato preso in considerazione il diritto della discriminazione delle donne, del diritto delle persone di ricorrere alla legge sulla base del fatto che la discriminazione è stata portata avanti non solo per una per la differenza di razza, ma anche in quanto donna, eccetera. Inoltre è stato preso in considerazione anche la discriminazione tra gruppi, intragruppi, e non solo quella di intersezione o quella del harassment sessuale. E quindi alcune volte si fa, per esempio, la discriminazione sulla base di una pelle più scura o più chiara, o sulla donna, se la donna si accetta in quanto donna con tutti i requisiti tradizionali della femminilità o meno. Comunque, tutti questi adesso vengono inclusi, tutte queste differenze sono state prese in considerazione. Ci sono tuttavia ancora casi casi di discriminazione dei datori di lavoro che sono ancora molto difficili da vincere. I tribunali hanno riconosciuto l'estensione del titolo 7 per quanto riguarda la discriminazione, perché bisogna riconoscere la complessità della natura delle identità. Recentemente ci sono stati dei problemi nell'interpretazione del titolo 7, vorrei fare il commento su tre casi. Innanzitutto, progresso è stato fatto dal punto di vista costituzionale per quanto riguarda i diritti delle persone LGBTQ, per quanto riguarda il matrimonio. Al momento non ci sono leggi sulla discriminazione sulla base dell'orientamento sessuale. Per esempio, nel titolo 7 significa delle differenze biologiche tra gli uomini e le donne, ed è stato concluso che il Congresso non intende proteggere l'orientamento sessuale nel 1964, quando è stata approvata la legge, e quindi non vengono contemplate il Congresso, tuttavia recentemente adesso è arrivato più vicino alla conversione in legge di una legge contro la discriminazione sul posto di lavoro, e speriamo che comunque arrivi a diventare una legge grazie al Presidente Obama. Tuttavia un impedimento sembra essere la riluttanza ad ampliare questa protezione a tutti, perché l'orientamento sessuale è diverso, sembra essere qualcosa di diverso dal sesso, la religione, la razza, eccetera. Perché il sesso, la religione e la razza devono avere questi requisiti, l'immutabilità e la visibilità, per esempio, invece l'orientamento sessuale non ce l'ha. Ma le corti continuano a dimostrare la mancanza di volontà di allontanarsi da dei modelli precedenti, e i giuristi sembrano scegliere sempre di affidarsi a delle formule piuttosto che di fare un'analisi specifica del contesto per eliminare le forme di discriminazione. E poi il problema dell'intenzione. Si tratta di discriminazione indiretta, secondo Susanne, e quindi richiedono criteri neutrali come test di intelligenza, eccetera, che vanno un impatto. Quindi questi non richiedono un problema di intenzione, e si può semplicemente dire che la legge è incostituzionale. Quindi anche se questi possono essere riassunti all'interno del titolo 7, se ci si è concentrati molto sull'intenzione dell'attore. Questo è problematico, perché stabilire l'intenzione è veramente difficile per quando si cerca di valutare chi cerca di discriminare, che sono molto discreti per quanto riguarda le loro motivazioni. Ed inoltre i sociologi hanno dimostrato che gli esseri umani, inclusi i datori di lavoro, sono spesso guidati da pregiudizi inconsci, e quindi un approccio basato sull'intenzione non prende in considerazione, è troppo difficile da esaminare, da portare in avanti, e ha a che fare soprattutto sui sistemi, si può applicare soprattutto a livello collettivo, ma non sui casi singoli. E c'è stato un caso di Greg vs. DuPower dove è stato riconosciuto l'articolo 7, qui il titolo ha detto che il titolo 7 è contrario a operazioni di discriminazione, e l'intenzione non forse la relatrice sta leggendo un troppo velocemente un testo che non è stato dato agli interpreti. Il congresso comunque ha detto che la spinta verso agire contro le conseguenze è non sulla motivazione. Nonostante il bisogno continuo di prendere in considerazione tutti questi problemi, i membri della Corte Suprema degli Stati Uniti sono piuttosto riluttanti a prendere in considerazione la teoria dell'impatto. In un caso molto complesso è stato detto che la risoluzione della Corte di questa vertenza semplicemente posticipa il male quotidiano che la Corte dovrà affrontare nella questione se e fino a che punto il titolo 7 è coerente con le garanzie costituzionali delle pari protezioni di tutti i cittadini. E quindi bisogna cominciare come riuscire a riconciliare questi due. E poi il formalismo. Negli ultimi 50 anni il diritto degli Stati Uniti ha abbracciato il principio dell'uguaglianza tra tutti, maggioranza, minoranza, bianchi e neri, e qualsiasi deviazione da questo formalismo viene preso come sospetto. L'idea di eguaglianza ha portato a un certo progresso, tuttavia noi sappiamo che trattare individui che sono differenti in maniera uguale, questo non produce dei risultati giusti o la parità, come potete vedere. Purtroppo negli Stati Uniti l'uguaglianza formale è diventata sia il punto di partenza che il punto di arrivo dell'analisi, come sottolineato dal giudice della Corte Suprema degli Stati Uniti per quanto riguarda un caso di segregazione scolastico. E John Roberts ha fatto questa osservazione, ha detto che il modo per porre fine alla discriminazione della razza è quello di smettere di discriminare sulla base della razza. E poi Justice Clarence Thomas ha detto quanto segue, ha detto, e notate, in questo caso in cui un attore pubblico cercava di assicurare l'inclusione di lavoratori appartenenti a delle minoranze, e ha detto: secondo me la discriminazione razziale sponsorizzata dal governo, basata su pregiudizi benigni, è tanto terribile quanto la discriminazione ispirata da pregiudizi cattivi o malevoli. E questo approccio acontestuale è stato utilizzato sempre, anche richiedendo che datori di lavoro, per esempio, si prendesse cura delle gravidanze, delle complicanze, ma questo formalismo ha portato a diverse rivendicazioni di individualismo, ha portato a casi di nuove rivendicazioni sulla base del fatto che, per esempio, le persone che erano singole venivano discriminate in quanto a loro veniva chiesto di lavorare nelle ore notturne, per esempio, rispetto alle persone che avevano dei bambini. E quindi potrei andare avanti per ore e ore parlando di tutti i problemi per quanto riguarda la legge antidiscriminazione negli Stati Uniti, ma voglio dirvi perché la legge antidiscriminazione è arrivata a questo punto negli Stati Uniti, quali sono le possibili implicazioni per il futuro. Ovviamente parte della risposta della prima domanda, cioè come siamo arrivati a questa fase, è l'intrattabilità delle norme molto radicate che riguardano alcuni gruppi, ma parte della risposta è solo temporale. Gli Stati Uniti è ormai a 50 anni di distanza dalla discriminazione, ed è semplicemente più difficile per l'opinione pubblica degli Stati Uniti che ha l'età media di 37 anni capire bene quali sono le nuove modalità di discriminazione. Si parla di un'ideologia. E ci sono l'idea o la bugia è che degli Stati Uniti è che con ogni singola persona con un po' di entusiasmo può raggiungere i propri obiettivi, ma e sembra che il sogno americano sia ottenibile a tutti, ma in questo discorso questo viene assolutamente ignorato, il fatto che non è sempre così. La legge sulla discriminazione è ad un impasse, perché gli americani adesso credono che noi siamo post razza, post religione, post tutto, e quindi è molto più bello, è molto più facile pensare che noi abbiamo già ottenuto quello che volevamo ottenere piuttosto che continuare a lottare contro le nostre imperfezioni. E poi la questione del potere, l'inclusione, come il cambiamento della razza negli Stati Uniti potrebbe portare alla diminuzione dell'influenza di alcune razze. La storia ha dimostrato che il potere non viene mai lasciato volontariamente, e quando il potere viene minacciato psicologicamente o materialmente di solito si fa sentire. In conclusione, in questo crimine la discriminazione, la fatica da discriminazione, la nostra for example, to view homophobia as sex discrimination is understandable, though la qualità formale ha un certo valore, ma non riesce a riempire i vuoti di uguaglianza. Quindi alla fine del giorno quello che possiamo dire è che gli Stati Uniti devono capire meglio i problemi della discriminazione. La discriminazione non significa trattare in maniera diversa le persone, ma dobbiamo chiederci perché c'è bisogno di questo cambiamento, e dobbiamo chiederci quelli che sono gli obiettivi della legge antidiscriminatoria. Purtroppo, nel 50° anniversario della nostra legge sui diritti civili, questa conversazione molti americani non sono più interessati a farla. Grazie. Thank you very much. I think that the United States, as far as practice. Per quanto riguarda la pratica e le azioni, sicuramente noi, l'Unione Europea, può imparare moltissimo da voi. Naturalmente anche ci possono essere dei miglioramenti anche negli Stati Uniti, ma noi possiamo imparare molto da voi. Ci sono dei commenti dal pubblico? Potrei chiedere se la signora rossa è qui? Bene. Grazie, Trina. Un'eccellente relazione. Io credo che dobbiamo fare una svolta utilizzando il formalismo. Il caso Ricci, a cui ho fatto riferimento, dimostra che i trattamenti discriminatori sono incostituzionali. La Corte Suprema ha scoperto che c'era una discriminazione intenzionale quando la città di New Haven ha deciso di non scegliere i risultati di un test perché aveva un effetto negativo su coloro che avevano svolto il test, che erano di origine latina o nera. E questo è così che si può provare l'intenzione a discriminare, cioè il datore di lavoro conosceva il genere o la razza della persona e questo rappresenta un caso di discriminazione. Io so che la Corte Suprema odierebbe questo tipo di approccio, ma questo è il percorso che ci rimane aperto, visto che si sono trincerati dietro la legge antidiscriminazione. Lo standard daltonico che abbiamo visto prima ha portato alle azioni, a bandire le azioni positive, ma il caso di Ricci non è un'azione positiva. Non so se ho capito bene, Michael, quello che stai dicendo è che il datore di lavoro deve essere anonimo, cioè bisogna per provare che c'era un'intenzionalità nella discriminazione, basta determinare che i datori di lavoro conoscevano la razza. E questo è l'unico percorso che possiamo utilizzare. Sì, probabilmente questo è giusto per quanto riguarda. Non so se sapete che conoscete questo caso, è stato fatto un test utilizzato per fare la promozione, per assumere dei pompieri e per farli salire di carriera. E poi hanno deciso di non prendere in considerazione il risultato dei test, ma il datore di lavoro non poteva concludere che questo avrebbe portato ad una discriminazione, ma era chiaro che dicevano, questo non so se guardando gli effetti sia giustificabile da un punto di vista delle leggi e non dal punto di vista costituzionale. Quindi la cosa che possiamo fare è tornare indietro ripensando bene a cosa, quelle che erano le conoscenze del datore di lavoro. Ma Michael, forse non siamo d'accordo sul fatto che non mi piace questo approccio sui piccoli pezzi, noi dovremmo difenderlo piuttosto sulla base del fatto che si tratta di una disparità totale, è da 50 anni ormai, quindi perché non difendiamo la teoria piuttosto? Questi risultati sono significativi, invece di cercare guardando dei piccoli elementi, cercare di combattere contro i piccoli elementi, forse possiamo raggiungere di più. Io capisco il tuo approccio, naturalmente, 20 secondi, capisco il tuo approccio dal punto di vista delle strategie, delle presenze, perché noi vogliamo vincere, ma per lo sviluppo di una teoria di giustizia sociale non credo che questo sia l'approccio giusto. E poi, per rispondere a quello che hai detto te, per quanto riguarda la legge, il sistema legale statunitense rispetto a quello europeo, io credo che non sia vero per tutti i settori. Ci sono tantissime altre cose da discutere, io ho ancora un commento da fare, ma abbiamo il dibattito, quindi allora è una domanda, ma è un commento molto molto breve. Le due presentazioni ci hanno detto, c'è una differenza tra le discriminazioni indirette, sembrano molto simili, ma in Europa soprattutto sono andati oltre. Negli Stati Uniti se si trova un impatto differenziale in alcune aree, il tribunale non ne parla. Per esempio i lavoratori a tempo parziale hanno meno benefici di quelli a tempo totale e quindi siccome le donne lavorano di più a tempo parziale, questa è una discriminazione, ma nessuno ha mai utilizzato questo caso, questo approccio negli Stati Uniti. È così semplice ed è strano che non sia stato utilizzato. E poi noi abbiamo una legge speciale per la discriminazione sulla base dell'età e la Corte Suprema dice che bisogna dimostrare l'intenzione, ma molto è dovuto ad un pregiudizio inconscio e quindi c'è una riluttanza e c'è un'esitazione a vedere trattamenti diversi e cercare di gestirli, perché significa cambiare la società e il tribunale non vuole farlo, quindi di solito il tribunale e le corti rinforzano le visioni tradizionali, dovrebbero essere i custodi, le corti sono dei custodi e infatti fanno proprio questo, custodiscono la tradizione. Grazie, grazie moltissimo, ci sono veramente tante domande. In Europa non si può discriminare sulla base dell'orientamento sessuale, ma il datore di lavoro deve sapere qual è l'orientamento sessuale. Ma questo è il punto, stiamo discutendo di questo. Comunque grazie, grazie moltissimo. Ed ora abbiamo, il microfono è spento, purtroppo non si sente. Diamo al relatore. La cultura sicuramente in questo caso svolge un ruolo molto importante. E grazie professor Le Pen, vorrei iniziare ringraziando la Fondazione Marco Biagi e Gianni e Jacopo, i miei contatti. Uno dei miei professori dice che il potere il PowerPoint che il potere corrompe, il power corrompe il PowerPoint ancora di più. Allora, cercherò di lasciare il tempo delle conclusioni all'inizio invece che alla fine, quindi le mie conclusioni sono queste, cioè ciò di cui parlerò, i colori i diritti dei lavoratori devono essere visti come diritti umani, questo viene proposto da molti studiosi. La mia argomentazione a questo punto è che questa visione non è vera per la maggior parte dei paesi in via di sviluppo che hanno moltissimo lavoro informale, e mi riferisco in particolare all'India, dove oltre il 90% dei lavoratori sono lavoratori informali. Quindi in questa mia relazione parlerò del trattare i diritti del lavoro come diritti specifici non è giusto, abbiamo bisogno di un approccio tipo diritti umani, ma questo non deve essere conclusivo. L'approccio diritti umani deve essere compendiato da quello che considera anche la variazione interpersonale e intergruppo, quindi già menzionata in una slide sull'uguaglianza, quindi questa anche variabile va presa in esame per parlare anche dei lavoratori primariamente informali in India. Questa è già la conclusione. E ora adesso vengo alla presentazione. Adesso che vi ho parlato delle conclusioni, inizio a raccontarvi la storia. Molti di voi sapranno di Halloween, no? La conoscete, è un grande business, i fiori, i costumi, tutto quello che è correlato ad Halloween è un grosso business. Un mio amico si è laureato negli Stati Uniti e volevo dargli un bouquet di fiori, andai dal fiorista, scelsi delle rose nere e tutte intorno a una zucca. E il fiorista mi disse: davvero, non vorrei mica portare questo a una persona che si laurea, questo è un fiore di Halloween, noi abbiamo qui una nuance particolare, non è che la puoi portare a una che si laurea, bisogna avere i fiori per chi si laurea, i fiori per quelli che festeggiano Halloween, per ogni occasione un fiore. Ma se guardiamo l'approccio ai diritti umani, il diritto umano dovrebbe parlare ovunque, dovrebbe essere una lingua comune, questo nel 1946 e da quella data in avanti. Quindi ho obiettato a quella visione dei diritti umani e in realtà io pensavo al fatto che abbiamo bisogno del diritto di parola, ma ancora più importante per un paese come la Cina è che i lavoratori lì possano rivendicare il loro diritto umano alla parola, che negli Stati Uniti probabilmente il diritto al cibo sarebbe quello da richiedere come contropartita al diritto sul lavoro. Quindi queste nuance ce le perdiamo quando parliamo del fatto che i diritti al lavoro dovrebbero essere trattati come diritti umani. Judith Fudge e altri ne hanno parlato, il loro approccio è strategico. I diritti del lavoro emanano dalla contrattazione, ma a causa del potere di contrattazione che si è deteriorata in tutto il mondo, i diritti dei lavoratori si diluiscono sempre più e pertanto si parla dello stato egemonico dei diritti umani, quindi i diritti del lavoro vengono considerati o dovrebbero essere trattati come diritti umani. Allora io ho un problema con tutto questo. I diritti del lavoro, che dovrebbero essere trattati come diritti umani, dovrebbero essere però costituzionalizzati. Allora menzionerò a questo punto alcuni diritti del lavoro che sono trattati come diritti umani e costituzionalizzati, per esempio il diritto di associazione, contrattazione collettiva, contro la protezione del lavoro forzato, contro il lavoro in catene, in schiavitù, al diritto alla pari retribuzione, stesse condizioni, diritto alla maternità, al congedo di maternità, eccetera, eccetera. In realtà non si può pensare a alcun diritto del lavoro che non sia compendiato fra i diritti umani nella nostra Costituzione indiana. Però guardiamo la realtà, nonostante tutto questo, il 92% dei lavoratori, quindi della forza lavoro indiana, è esclusa dalle tutele sia di questi diritti costituzionali, che ci sono oltre 150 leggi emanate che emanano da questi diritti costituzionali, e queste legislazioni provinciali si applicano solamente all'8% dei lavoratori formali, la maggior parte dei quali sono in relazione, hanno un contratto di lavoro. Per il resto dei lavoratori, che sono lavoratori informali, per esempio chi vende sulla strada, le domestiche, i lavoratori della supply chain, sono tutti esclusi da diritti costituzionali, dove i diritti del lavoro sono trattati come diritti umani, come pure quelli che emanano da particolari parti della Costituzione. Quindi si viene alla questione dell'efficacia dell'approccio. Quindi considero questa opportunità di parlare dell'approccio ai diritti umani di per sé, il paper che presento fa parte di un progetto più ampio che non è comunque un documento definitivo, sono più i miei pensieri piuttosto che un discorso strutturato. Colgo questa come opportunità per parlare dell'approccio ai diritti umani. No? Upendra Bakshi, David Kennedy hanno menzionato alcuni di questi punti, cioè i diritti umani sono prodotti dal resto della popolazione, consumati dal resto della popolazione. Makau Mutua ha detto che la colonizzazione non ha potuto portare a una creazione di un'industria dei diritti umani, e lo sfruttamento della maggior parte della popolazione del mondo non ha portato all'industria dei diritti umani, che è iniziata solamente quando gli ebrei venivano trattati in Europa. È solo allora che gli Stati Uniti hanno pensato ai diritti umani, e i diritti umani sono diventati un'industria. Sono consapevole del fatto che sicuramente i diritti umani c'erano già, ma hanno iniziato a diventare una sorta di industria solamente dopo il regime nazista. Questo è il background appunto dei diritti consumati inseriti all'interno di questo approccio consumistico. Questo approccio deve essere convertito in diritti umani, però i bisogni non vengono spesso convertiti in diritti. Questo farebbe parte di un processo particolare, la partecipazione per esempio alla produzione. Il Presidente degli Stati Uniti e il Primo Ministro del Regno Unito già enunciavano questi punti, anche alcuni politici francesi, però il problema è la gerarchia dei diritti umani. Io non credo che nessuno possa parlare senza aver mangiato per un mese, pertanto il diritto al cibo dovrebbe essere un diritto di base fondamentale per tutti, ma invece di questo il diritto di parola è un diritto fondamentale, mentre il diritto al cibo viene relegato ai diritti socio-economici, pertanto non applicabile, non poi così importante nel discorso diritti umani. Ma credo che questo sia problematico, almeno nel contesto del mio paese. I diritti umani sono una questione di potere. Bush attacca l'Iraq per promuovere i diritti umani, e quando si dice che il diritto a avere un'arma è un diritto naturale, lui si appella al diritto prepolitico del concetto di diritto. Il diritto approcci diritti umani, l'approccio ai diritti umani è politico, quindi è una questione egemonica, non ha aspetti emancipatori, perché non si può reclamare un diritto umano se non si è all'interno di un certo quadro all'interno del quale si intende agire. Questo delegittimizza altre strategie, i diritti umani, l'approccio ai diritti umani sono un concetto molto ristretto, si rivendicano dei diritti per esempio rispetto allo Stato, se uno ha ragione e crede nella distinzione fra diritti e doveri, se uno ha un diritto allora lo Stato deve fare qualcosa, ma qui noi escludiamo tutte le altre entità che costituiscono la società democratica. I diritti umani non sono fondati nel contesto sociale, cosa alla quale arriverò fra un attimo, e il problema più grosso è che dovrebbe esserci una misura che va bene per tutti, no? In realtà, che l'accettate o meno, vi dirò il mio pensiero e vorrei appunto parlare del one size fits all, cioè che una taglia vada bene per tutti, no? Perché questo si distanzia dall'approccio individui umani, diritti umani, e prende l'individuo come punto di riferimento. Stephen Hawking, per esempio, lo scienziato, e Usain Bolt, lo sprinter, il centometrista, entrambi hanno un diritto a della scarpa Reebok, però queste scarpe servono a scopi diversi. Per l'uno è solo decorativa, mentre per l'altra serve a migliorare, che ne so, il movimento, la prestazione sportiva. Adesso allontaniamoci dall'approccio ai diritti umani, diciamo che il nostro obiettivo è quello di migliorare la mobilità di Stephen Hawking e di Usain Bolt. Allora potremmo anche dire che a Usain Bolt possiamo dargli le Reebok e per Hawking magari una sedia a rotelle. Ma questo mi porta a considerare l'approccio della capabilities di Amartya Sen e Martin Nussbaum, che dice: lo sviluppo umano dovrebbe essere misurato in termini di libertà di fare, di essere. Quindi se un individuo desidera far qualcosa o essere qualche cosa, allora è necessario capire qual tipo di infrastruttura e di struttura la società può mettere a disposizione affinché questo individuo possa, se individuo o come individuo o come gruppo, raggiungere e perseguire il proprio obiettivo. Il diritto umano diventa pertanto un fattore nel promuovere la libertà in termini di scelta, se si considera questo approccio. Quindi l'approccio capability della capacità, delle abilità, non si concentra sulle risorse, inclusa la libertà, quindi non si dice diamo dei diritti, diamo protezione a tutte le sociali, diamo qualcosa, si concentra invece sul tipo di protezione sociale, diritti e libertà sono dovute per migliorare la capacità del singolo affinché questo possa perseguire i propri obiettivi, cosa vuole essere, ciò che vuole fare. Ci sono due visioni su diritti umani e capabilities. L'equivalenza viene proposta da una delle autrici che dice che se i diritti umani sono ottenibili, magari non sulla carta, però più tatticamente, se sono appunto ottenibili, allora diventano delle capacità. Ma Sen dice, d'altro canto, che i diritti umani dovrebbero essere trattati come dei fattori, ovvero la base per la promozione di una maggiore libertà di scelta da parte dell'individuo. Ora, come questo viene in aiuto alla mia tesi, quella dei lavoratori informali, quindi il 92% dei lavoratori indiani. Ora considero un caso studio di coloro che lavorano nel campo del riciclaggio, plastica, ceramica, eccetera, che vengono date all'industria del riciclaggio, che poi appunto ricicla i prodotti. Ho trovato una serie di fattori che sono circa 10, che sono importanti: la libertà di lavoro, riconoscimento come lavoratori, accesso ininterrotto alla postazione di lavoro, documenti di cittadinanza, possibilità di non solo di vivere nel paese ma anche di effettuare l'attività lavorativa, postazione di lavoro. Quando parlo per esempio dei waste pickers, degli operatori ecologici che raccolgono i rifiuti, uno dei requisiti è che non debbano avere solamente una protezione per poter continuare a vivere, ma anche per continuare a lavorare, quindi un posto dove stare, carare regolari di lavoro pagato, paga adeguata e tutta una serie di norme igienico-sanitarie a loro favore. Tutto questo viene dato loro? Sicuramente no, ed ecco perché dico perché è importante la questione dei diritti umani, perché i diritti del lavoro dobbiano essere considerati come diritti umani. Dobbiamo cercare di includere questi diritti in questi diritti tutta una serie di approcci diversi, cercando di capire cosa serve alle persone per poter promuovere i propri obiettivi che sono stati identificati dai lavoratori stessi. Mi fermo qui, ma prima vorrei menzionare qualche punto che raffronta gli approcci ai diritti con quello delle capacità, ruolo della partecipazione, del dialogo, diritti umani, capability approach, approccio top down e bottom down, conseguenzialismo oggettivo che considera gli obiettivi. Questo è un approccio di capability, non di fattori. I diritti umani ti dicono che ce li hai, le capability ti dicono sì ce li hai, ma che servono. Libertà intrinseca e strumentale, i diritti umani fanno parte della libertà intrinseca, mentre quelli di approccio sono lì per promuovere la libertà strumentale dei lavoratori informali. Obblighi. L'approccio alle capabilities va oltre il considerare uno Stato come un un elemento unitario, quindi un PowerPoint unitario, e va al di là del concetto stesso di Stato per integrare altre istituzioni della società democratica nel promuovere la libertà dei lavoratori, la gerarchia dei diritti umani è assente nella capability approach. L'approccio alle capabilities considera la delegittimazione dei diritti come il problema del contesto sociale e chiede alle persone, ai gruppi, ciò di cui hanno bisogno, quindi il diritto alla legalità all'interno delle organizzazioni finanziarie multinazionali che parlano anch'esse di diritti umani. Mi fermo qui e aspetto le vostre reazioni, le vostre idee in questo contesto. Thank you for a fascinating. E grazie per questa introduzione affascinante, nel senso di fare una distinzione fra diritti umani, diritti del lavoro e capacità, e in realtà avrei molte domande io su questo punto, ma vedremo durante il dibattito, visto che abbiamo iniziato in ritardo, che il tempo pressa, direi che continuiamo con la collega che ci parla di diritti, giustizia sociale. Game over, punto di domanda, la partita è finita. Professoressa Mist Westerveld dell'Università di Amsterdam ha la parola. Buongiorno. Come potete vedere in questa prima diapositiva, hanno tolto il titolo della mia presentazione, che era così provocatorio. L'avevo inviato dopo un giorno bruttissimo, lavoravo su questo progetto, mi sono detto non porterà mai a niente il nostro lavoro sulle donne e la protezione sociale, e quindi l'ho inviato così com'era. Ma poi ho pensato, voglio essere un po' più aperta, ma l'argomento della giustizia sociale è un argomento molto importante, molto interessante, ci riporta alle discussioni degli anni 80 e degli anni 90, ne ha parlato, argomenti come l'uguaglianza sostanziale, l'uguaglianza formale, discussioni che si tenevano all'interno dell'Unione Europea, ma anche negli Stati Uniti, un periodo in cui la ricerca delle femministe in ambedue i continenti erano in continuo confronto e collaborazione per raggiungere la giustizia sociale per le donne e la parità di trattamento. È l'approccio giusto? Forse dovremmo trovare un'altra modalità? Questione centrale, reale, è una questione molto normativa nella mia presentazione. Dopo ieri mi chiedo perché così tanti avvocati, quando parlano di diritto del lavoro, si sentono obbligati a prendere una posizione. Se guardiamo tutte le cose che abbiamo sentito e se contiamo quante persone hanno detto deve essere così, oppure non possiamo accettare questo, non possiamo accettare questo. Ed io mi chiedo, è qualcosa che ha a che fare col diritto del lavoro oppure lo si trova in tutti i settori del diritto? Non lo so. Comunque ho cercato di avere un approccio obiettivo alla mia ricerca, ma la questione centrale è una questione molto normativa. Si tratta di una questione che non era una mia domanda, ma era una domanda che mi è stata data per uno studio di ricerca, e potete vedere che se affrontate questa domanda, allora è importante aprire delle altre domande che sono difficili da chiudere. È sufficiente, è un criterio, e questo mi riporta ad una storia olandese che i genitori raccontano ai bambini di questo piccolo verme che mangia, mangia, mangia e poi alla fine diventa una bellissima farfalla, ma nella politica olandese è diventata la parola per quei politici che vogliono sempre di più, soprattutto quando lavorano nel finanza, vogliono spendere un sacco di soldi e quindi la parola caterpillar a questo punto non non è una parola cattiva, ma adesso ha un significato diverso. Ma tuttavia ci sono altri problemi da affrontare. Non so come si fa a far girare le slide. Eccomi. Ci sono altre questioni importanti. Quali sono i programmi di protezione o di tutela? La previdenza sociale, soprattutto nell'Europa, sta diventando qualcosa che sembra abilitante, ma è il lavoro la vera protezione. Ma coloro che dicono questo sembrano prendere in considerazione il fatto che per alcuni non c'è questa opzione del lavoro. E la domanda quindi è: dov'è l'interesse migliore delle donne? È una domanda molto diversa. Quindi sono tutte questioni che devo affrontare, cerco di farlo nella mia relazione, ma non ve ne parlerò adesso perché ho solo 20 minuti, quindi andrò avanti. Io non so se conoscete questi due uomini, sono i padri della previdenza sociale europea, quello a sinistra è Bismarck, è l'inventore del programma Bismarck, e l'altro naturalmente Lord Beveridge, che ha scritto il Beveridge Report, molto famoso, e hanno inventato la previdenza sociale per come la conosciamo noi. Perché sono importanti? Non solo perché erano uomini, ma anche perché hanno scritto questo programma quando la partecipazione delle donne era completamente diversa da quella di oggi, e questa è la mia dichiarazione di oggi. Questo concetto non è mai stato ripreso in considerazione e messo in dubbio, naturalmente degli sforzi sono stati fatti, ma i rischi sociali che sono stati identificati quella volta sono ancora i rischi sociali che vengono riconosciuti oggi. Voglio darvi un esempio di questo. Ho esaminato il sito web dell'OIL, dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro. In questo sito web ho visto che, vediamo se lo trovo, che la previdenza sociale viene formulata come la protezione che la società fornisce agli individui e alle famiglie per assicurare accesso alla sanità e garantire una sicurezza del reddito, soprattutto in caso di anzianità, invalidità o perdita del capo famiglia. Questa definizione ci dice che ci dà una descrizione che è stata scritta per lavoratori senza responsabilità di familiare. E c'è l'esclusione dal lavoro casalingo non pagato. E questo è sintomatico dei datori di lavoro. Molti sono inconsapevoli delle implicazioni di genere, ma non solo. Il modello neoclassico nega il contributo produttivo delle donne che fanno attraverso il lavoro socialmente necessario ma non pagato, ma non prende in considerazione la riproduzione e la produzione, in cui attraverso questo lavoro non pagato il femminismo è molto importante, e il lavoro non pagato, il lavoro casalingo è un'oppressione. La ricerca di solito si basa sul fatto delle differenze tra gli uomini e delle donne e sull'impatto che ha sull'occupazione. L'analisi di genere invece considera la cura come un'attività sociale necessaria, che non è sempre riconosciuta in quanto tale. Prendersi cura è uno degli svantaggi delle donne, ma spesso anche un elemento di identificazione delle donne. E quindi questo vi dimostra due cose: getta luce sulla delle relazioni tra le donne e la previdenza sociale e l'inadeguatezza delle definizioni tradizionali. Nella selezione dei rischi sociali, la maggior parte delle definizioni sono pregiudizievoli dal punto di vista del genere. E c'è un altro padre del diritto, Newcross Insimer dell'istituto da cui provengo, ha sottolineato che il diritto del lavoro non può essere concepito solo come il diritto che governa le relazioni di lavoro, deve coprire tutti i bisogni e tutti i rischi che devono essere presi in considerazione nella vita di un lavoratore, anche il lavoro di servizio. E questa descrizione secondo me potrebbe andare avanti, durare ancora per un altro secolo, a meno che non si faccia qualcosa. Ho già citato la questione della previdenza sociale, del welfare state, che è molto importante quando si parla di previdenza sociale. Ed ora vorrei passare al periodo subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando l'Unione Europea è stata fondata. Lo divido nella mia relazione in due periodi diversi per quanto riguarda il genere, la questione di genere. Il primo è quello dell'acquis europeo sul diritto alle pari opportunità, al pari trattamento, e qui c'è la firma del Trattato di Roma. Questa persona al centro è il ministro degli esteri olandese, e naturalmente ho scritto questa frase: sapevano cosa firmavano, perché questo trattato conteneva una parte che avrebbe avuto un impatto enorme sulle leggi per le pari opportunità o per pari trattamento. E poi ci sono anche due madri per questa legge, volevo presentarvele. La signora a destra è Miss Pukkelpost, è l'avvocato nei casi di Frenek. È belga, sì, belga. Un caso molto importante che ha portato alla legge sul pari trattamento. E a sinistra invece abbiamo una sociologa francese, Véline Hugo, che ha scritto una relazione molto influente per la Commissione europea e ha criticato la mancanza di attenzione data al lavoro delle donne e il modo in cui è segregato il lavoro, il mercato del lavoro. E devo dire, lo era quella volta e ancora credo che sia segregato, ci sia una segregazione. Mi sembra che alcune volte noi facciamo un passo avanti e due passi indietro, ma spero che lei abbia ragione con questo approccio passo passo, ma lei è molto ottimista, per me si fa un passo avanti e due passi indietro. Per quanto riguarda, in risposta al rapporto di questa sociologa, è stato portato avanti un piano d'azione dall'Unione Europea e per la prima volta è stata presa in considerazione questa legge sul pari trattamento. È stato scritto che la Commissione legittimamente può interferire sulle questioni che riguardano la distribuzione delle risorse e il mantenimento della stabilità sociale, e grazie a questo abbiamo avuto le tre direttive sulle pari opportunità, pari trattamento sulla previdenza sociale e pari opportunità. E questo ha portato a molta giurisprudenza. Noi non vogliamo avere tutta la giurisprudenza, andrò direttamente quindi alla conclusione. Il pari trattamento è molto più difficile da raggiungere nella previdenza sociale che per quanto riguarda il diritto del lavoro. Se si guarda la giurisprudenza, per esempio, sulla seconda direttiva, le femministe dicevano che la Corte Europea di Giustizia aveva un'ideologia basata sulla maternità, e la Corte dopo tutto fa quello che gli Stati membri si aspettano che faccia. 5 minuti, ma scherzi? Quindi andrò sempre più veloce. Questo periodo di leggi è stata poi seguita durante l'espansione dell'Unione Europea, poi non parlerò delle politiche che riguardano la previdenza sociale, quindi questo periodo di leggi è poi stato è questo, le strategie di lavoro loro hanno cambiato il carattere della previdenza sociale in diversi stati dei membri, ma tuttavia le politiche di welfare, che è stata la fase successiva poi dopo il periodo statutario, sono diventate parte di un caso invece di creare una roadmap per raggiungere l'uguaglianza. Questo è stato definito dagli USAID Kind. Uno sviluppo molto interessante che vorrei condividere con voi è lo sviluppo del cosiddetto nuovi stati membri. Infatti la ricerca ha dimostrato che in questi paesi, dopo che sono entrati nell'Unione Europea, c'è stato uno sviluppo opposto. Sotto il regime comunista c'era la partecipazione totale dei lavoratori, non che ci fosse una vera e propria parità di genere, naturalmente l'onere della casa era sempre nelle mani delle donne, come ha detto qualcuno, gli uomini fanno carriera, le donne hanno un lavoro, ma dopo l'entrata nell'Unione Europea c'è stata molta disoccupazione e quindi lo Stato hanno chiuso la maggior parte degli asili e tutte le strutture a favore dei bambini, e le donne sono ritornate a casa a lavorare come casalinghe, quindi è stato un passo indietro in realtà per questi paesi. Vorrei concludere presentandovi dei dati e dei dilemmi che ho io quando cerco di rispondere a queste domande, perché ancora sono piuttosto confuse. Innanzitutto i dati di fatto: praticamente tutti gli stati membri, sia che siano stati membri basati sul doppio reddito o sul capo famiglia, le donne svolgono la maggior parte del lavoro non pagato. Nella maggior parte degli stati membri le famiglie con un unico capo famiglia hanno un capo famiglia donna. Quindi non c'è dubbio su chi si prende cura dei bambini. Nel caso in cui ci sono genitori singoli, di solito è la donna che è un genitore singolo. E poi le politiche non sono riuscite a risolvere questo problema in maniera equa. E poi arriviamo ai dilemmi. Le politiche di attivazione hanno un lato scuro e un lato invece più positivo. Non va bene naturalmente che chi si occupa della cura deve essere stimolato a rimanere a casa, perché a quel punto si avrà un vero problema, ma non conosco la parola per spiegarmi meglio. E poi coloro che si prendono a cura delle persone a lungo termine naturalmente sono di grande beneficio, ma può portare anche a dei gravi problemi. La Commissione Europea ha riconosciuto tutto questo dilemma. E cosa possiamo fare? Non sto parlando dei bambini solamente, ma cosa succede quando per esempio si ha un genitore anziano che ha bisogno di cura? Abbiamo questo grande problema della popolazione che invecchia, e poi la previdenza sociale non ha nessuna risposta per per quelle coppie in cui c'è un membro della coppia che decide di essere la persona a carico. Si sa bene che se avete 5 minuti vi posso spiegare le ragioni che spiegano tutto questo, ma il grande problema è come risolvere questo problema. E non è solo il problema di chi paga, ma anche se c'è la volontà di risolvere questi problemi. E se guardo la direttiva BAB e l'esito di questa direttiva, gli uomini cercano di mantenere i loro interessi, e quindi io credo che la povertà femminile nell'anzianità non è un problema che sarà risolto. Il gioco è concluso, grazie. Thank you very much. Grazie, grazie moltissimo. Abbiamo avuto 5 presentazioni veramente interessanti che ci hanno posto più domande di quante siano state le risposte. E adesso facciamo una breve pausa e ritorniamo alle 10:20 e poi avremo l'intervento di Lina Galvez e Jacques Rougeau. Avremo un po' di dibattito in modo da concludere in tempo per l'una a pranzo. Grazie, grazie a tutti i relatori. Microfono. Allora, probabilmente in queste 4 presentazioni manca un po' il momento storico all'interno del quale operiamo oggi, no? Manca un po' questa prospettiva. Abbiamo discusso di questo negli ultimi giorni. Il social empty box, questa scatola sociale vuota, il termine mi è piaciuto molto in questo momento specifico specialmente, ma ci troviamo oggi a un crocevia dove molto sta cambiando alle basi di un nuovo ordinamento, di un nuovo sistema, ovvero il completamento dell'ordinamento che già si è stato avviato negli anni 70 e 80, emerge in modo molto chiaro, e specialmente le condizioni di lavoro, le relazioni di lavoro, i diritti non sono e non saranno più quelli del passato, del 2008, del periodo antecedente. Quindi mi manda questa seconda parte, questa seconda dimensione del titolo, cioè lo scenario in evoluzione. Ed è vero che questo è stato poi trattato diversamente nelle diverse relazioni, ad esempio importanti sono stati alcuni aspetti come l'individualizzazione del rischio, oppure le sfide della flessibilità, in particolare quella flessibilità specifica per la donna, le sfide importanti che bisogna affrontare oggi. È chiaro, le nuove sfide sono state chiare rispetto alle leggi antidiscriminatorie negli Stati Uniti a partire dagli anni 60, che però non tratta le condizioni materiali o legali del lavoro negli Stati Uniti, cioè per quei contratti che sono senza compenso economico e che sono importanti in un'area specifica come il settore della ristorazione, oppure della formalizzazione, l'informalizzazione, senza però senza riflettere appunto su questo aspetto o le considerazioni fatte sul waste pickers in India, oppure la legge sulla legislazione sociale, sulla social security, o come il sistema di sicurezza sociale è passato dalla protezione al reddito ai benefits e al lavoro, però non si considera qui la possibile, non si considerano in questo contesto le possibili conseguenze, cioè in che misura le attuali politiche statali, che secondo me permarranno anche in futuro, grazie anche a Maastricht, sono d'accordo su questo con quanto lei diceva, avranno un impatto sull'uguaglianza di genere, sugli obiettivi che si propone con i rischi sociali, la disoccupazione, che non sono più sinonimi, dato che ciò che vige adesso continuerà ad esserci, e quindi avremo quelle persone nel mercato del lavoro che sono poveri o a rischio di povertà, che sono esclusi sociali e pertanto lo sono anche i loro figli, i loro bambini, quindi questo è il destino comune della forza lavoro in Europa, e la finanziarizzazione dell'economia dagli anni 70 a causa del processo di deregulation, all'incremento della disuguaglianza, alle nuove regole del gioco, le politiche deflazionistiche, l'incremento della disuguaglianza da partire da Maastricht, hanno determinato la dominanza hanno portato all'affermazione della produzione e riproduzione come principi forti, questione che dobbiamo affrontare. Quindi la libertà del movimento dei capitali rende iniqua la relazione esistente fra il capitale finanziario, non soltanto rispetto ai lavoratori, ma anche ai governi, che sono obbligati ad andare verso leggi e nuove definizioni delle regole del gioco che sono assolutamente sbilanciate per quanto concerne il lavoro, e quindi continuerà ad esserci una situazione di questo tipo, dato che questa crisi è stata l'opportunità per sottolineare queste regole del gioco che vigono a livello nazionale e internazionale, dato che nessuna delle cause, per esempio quelle strutturali, sono mai state affrontate né modificate in alcun modo. Specialmente la disuguaglianza è stata una delle cause strutturali più importanti di questa crisi, e non so se sapete che negli Stati Uniti c'è stata una fase di crescita del 2009, ma il 19% della crescita si è concentrata esclusivamente sull'1% della popolazione globale. Questo è lo scenario che abbiamo e quindi quello che temo continueremo ad avere. Quindi abbiamo un incremento della precarietà del lavoro, chiamata anche flessibilità e austerità anche, quindi le politiche di austerità e deflattorie mantengono la disoccupazione, l'occupazione al di sotto del suo reale potenziale. Il pieno impiego non è auspicato, perché implicherebbe una ridistribuzione dei benefit, quindi coloro che hanno pensato a Maastricht sicuramente non miravano a questo. E la legge, tutto quello che si nota in Europa è semplicemente il part-time flessibile come forma molto diffusa di lavoro, specialmente per le donne, e oltre a questo un datore di lavoro spagnolo dice che oggi sarebbe disposto, le persone sarebbero disposte a lavorare per un salario, senza salario, senza assolutamente protezione, tutele sociali, nulla. Questa purtroppo oggi è la dura, difficile realtà. Quindi a questo aggiungiamo l'individualizzazione del rischio con la promozione della privatizzazione del sistema sanitario e pensionistico, e le istituzioni pubbliche non stanno facendo nulla per andare incontro alle scelte, alle decisioni delle donne, alle opportunità di lavoro che adesso si offrono. Pertanto gli interessi cambiano in questo scenario. L'Europa, il resto del mondo e gli istituti internazionali sono quelle scatole vuote, quelle scatole sociali vuote di cui si parlava prima, e adesso vengo da alcuni commenti molto molto specifici relativi alla relazione di Buri sulle sfidanti prospettive riconciliazione, lavoro, vita familiare, eccetera. Interessanti anche i casi studi europei e il raffronto europeo olandese. Vorrei sottolineare naturalmente gli aspetti positivi che tutti voi avete già sentito, però anche qualche piccola lacuna naturalmente nella mia prospettiva non specialistica. Direi che ci sono regimi diversi che portano equilibri di genere diversi, basati su servizi sociali o diritti universali, ovvero rispetto alla famiglia, eccetera, che possono essere in realtà modelli combinabili o ricombinabili. Adesso bisognerebbe capire quale sarebbe il modello proposto dall'Unione Europea, in particolare sulla base delle istituzioni neoliberali della Banca Centrale Europea e dell'Istituto di Maastricht. Quanto tempo ho ancora? 5 minuti, sì. La legislazione sulla previdenza sociale probabilmente non considera tutte queste questioni, almeno a livello europeo, però la politica europea monetaria ed economica determinano approcci nazionali a prendere una determinata direzione, e questo naturalmente implica una grande responsabilità dalla parte delle istituzioni europee. quindi le politiche economiche determinano l'erogazione di servizi sociali, l'uguaglianza e disuguaglianza, e in che misura la legislazione europea stia concentrando sotto questo, in particolare rispetto alla donna, alle responsabilità che essa assume sul lavoro in famiglia. Non ci sembra appunto che ciò sia ancora, abbia avuto l'importanza che merita. Un altro aspetto importante è l'accento che è stato posto sulla maternità, sul congedo di maternità, ma non su quello di paternità. È stato solo menzionato il caso olandese, ma c'è la possibilità di migliorare la situazione del congedo di paternità, come nel caso islandese o nei casi già noti scandinavi. Bisognerà considerare come questo può andare, come queste misure possono andare in favore del lavoro part-time, delle donne, discriminazione statistica da parte dei datori di lavoro, eccetera. Has to take care of the key. Naturalmente anche la cura dei figli è un aspetto importante, ma non sono necessariamente le donne a doversene occupare, quindi importante è affrontare le sfide, l'individualizzazione, la flessibilità, come si diceva prima, e non sono completamente d'accordo su quel punto. Per quanto concerne Jones e le sfide contemporanee per la legge di discriminazione, sicuramente l'approccio storico è stato molto interessante. Vedremo come la questione della discriminazione di seconda generazione verrà trattato dai tribunali statunitensi. Forse qui mi mancava un po' la considerazione del nuovo scenario, la disuguaglianza in aumento. Non vado a ripetere cose che sono già state dette rispetto a questo punto. E sfortunatamente gli Stati Uniti sembra andare avanti sulla linea dell'approccio capitalistico, che sembra essere legato a un'ideologia sociale fondata sull'American Dream, dove ognuno deve avere il controllo del proprio destino. Secondo me questa idea dell'American Dream, del sogno americano, deve essere riconsiderato: la precarietà del lavoro, l'incremento delle tasse universitarie sono sicuramente elementi aggravanti. Situation on how labor conditions determine women shows. Il paper di Ruth è stato molto interessante sull'approccio alle capabilities, ma vorrei sapere, mi sarebbe piaciuto sapere, come veramente si può tradurre l'approccio alle capabilities, alla capacità, alle condizioni di vita e al miglioramento delle stesse. Ci si è concentrati molto sull'approccio alle capabilities, che mi piace molto, però credo che il caso specifico, il caso di studio, secondo me sarebbe stato importante discutere di più il caso di studio per venire insomma un po' a capo della questione del diritto all'alimentazione prima di altri diritti, oppure a non essere violentati e maltrattati per i bambini, così come avviene tutti i giorni invece in realtà all'interno di queste società. E poi Westerveld, sono d'accordo sull'approccio adottato. Giustizia sociale, donne e giustizia sociale, anche l'aspetto della protezione dai rischi sociali, perché questo è l'unico modo per poter tenere conto della relazione degli squilibri di genere. Credo che sia stata una relazione molto interessante. Il contesto attuale secondo me è mancato un po', cioè la correlazione al momento attuale mancava, doveva essere sottolineata un po' di più, e la strategia di Lisbona è stata sostituita dall'Europa 2020 senza obiettivi specifici da raggiungere in termini di uguaglianza di genere, ma c'è un assunto invece implicito, cioè che uomini e donne siano allo stesso punto di partenza, quindi adesso è riuscire a raggiungere gli obiettivi di occupazione al 2020, al 2020, per cercare di capire se si riuscirà a superare il rischio di povertà. Lei ha analizzato il periodo pre e post 1985, in realtà io direi di andare al 92, cioè al Trattato di Maastricht, come momento distintivo, perché secondo me da allora sono cambiate le regole del gioco e quello è stato il momento nel tempo in cui si è arrivati a considerare le politiche discriminatorie, che non sono esclusivamente di genere ma forse assumono un'altra connotazione. Ma mi spiace, non ho molto tempo, quindi concludo qui. Thank you so much. The floor is to Professor Osho. Thank you very much, Mr. Grazie, signor Presidente. Per favore, preparate le vostre domande. E anche dicendo bene a chi volete porre la domanda, quindi pensateci. Grazie. Vorrei ringraziare la Fondazione per avermi invitato, ma soprattutto vorrei ricordare l'ammirazione per l'organizzazione di questa conferenza, che tiene viva la memoria di Marco Biagi. Io non ho un PowerPoint, come ha detto il relatore precedente, perché avevo paura di essere discriminato perché non utilizzo il PowerPoint, ma vedo che qualcun altro non utilizza il PowerPoint, quindi non sono discriminato. Quindi siamo un po' come in una clessidra, un titolo molto grande, quattro relazioni sulla discriminazione, e poi di nuovo in questa clessidra ci si allarga di nuovo perché si parla di argomenti diversi. Tre parlano di discriminazioni contro le donne, una della discriminazione rispetto ai lavoratori più poveri. Due relazioni hanno a che fare con l'Unione Europea, una con gli Stati Uniti e una con l'India. Due hanno a che fare con il diritto del lavoro, una con la legge sulla previdenza sociale e una sui diritti umani. Tre relazioni riguardano i diritti, e uno studio sul campo. Si parla di, per esempio, 50 anni di politica europea, 50 anni della legislazione sulle pari trattamento, i diritti civili degli Stati Uniti. E poi devo dire, io non sono un esperto di diritto del lavoro, insegno in una scuola di management sulle teorie dell'organizzazione, quindi non farò commenti specifici sul diritto del lavoro. Il primo commento che vorrei fare mi si baserà proprio su questo, sulla mia esperienza personale. Il primo punto, dopo aver letto tutte le relazioni, è i limiti del diritto del lavoro. In diverse domeni, per esempio l'impatto del diritto sulla condizione della donna e della società è solo uno dei tanti fattori. Se guardiamo le relazioni, vediamo fattori come la cultura, il mercato del lavoro, le agende politiche, la demografia, la biologia e forse anche l'economia. La relazione sulla previdenza sociale sottolinea il fatto che tutto questo costa denaro e sicuramente quando parliamo di diritto del lavoro dobbiamo prendere in considerazione anche il costo, soprattutto in questo periodo di crisi economica. Oltre a questo ci sono limiti anche su dove il lungo braccio della legge può arrivare. La relazione sui diritti civili dice che la discriminazione può essere malevola, ma può anche essere guidata da dei pregiudizi inconsci o impliciti. Naturalmente la legge affronta la violazione delle regole, ma ha molte difficoltà a regolare l'inconscio degli individui. Inoltre la legge, quando è spinta dall'imperativo di ottenere risultati concreti, può trovarsi di fronte a delle conseguenze non attese. E ci sono due relazioni che hanno dimostrato questo: 50 anni di storia della legge sui diritti civili e 50 anni di storia dell'Unione Europea. Queste relazioni portano tanti esempi. Per quanto riguarda la Corte di Giustizia della Commissione Europea, la giurisprudenza che sottolinea la posizione delle donne prende poco in considerazione la condivisione dei ruoli tra gli uomini e le donne. Ho diversi esempi che derivano dalla legge sui diritti civili, ma non li citerò. Devo dire che i pilastri fondamentali della legge si possono essere messi in dubbio combattendo la discriminazione, per esempio la questione delle intenzioni attraverso prove statistiche che per quanto riguarda la giurisprudenza in questo caso ci porta a dei casi dove degli aspetti incompatibili della legge vengono portati alla luce, per esempio l'uguaglianza per la legge e la disparità dell'impatto sulla maggioranza delle decisioni. La questione fondamentale delle quattro relazioni è come riuscire ad andare oltre i limiti del diritto del lavoro e cosa possiamo fare da qui in poi. Tre relazioni hanno a che fare solo con il mondo occidentale. E prima di passare alla prima relazione, se avrò tempo, si potrebbe ricordare la citazione di Alex de Tocqueville, che è la prima parte dell'uguaglianza, della richiesta di uguaglianza: appena l'uguaglianza si migliora, quindi ci trova a vedere ulteriori disuguaglianze e quindi cercare nuova uguaglianza, l'uguaglianza sembrerebbe irraggiungibile. Ma se questo è ingiusto, perché vediamo che ancora oggi, anche se sono passati 50 anni nella lotta contro la discriminazione delle donne e delle minoranze, come già stato detto precedentemente dalla relazione che si occupa di previdenza sociale, la maggior parte dei poveri in età avanzata sono donne, proprio perché hanno avuto dei redditi più bassi e hanno passato molto tempo a prendersi cura della famiglia. Per concludere, salterò tutti gli altri miei commenti e non vorrei non citare la relazione sulla discriminazione dei più poveri tra i poveri. Il caso dell'India, non posso parlare della dialettica tra i diritti civili, i diritti umani, i diritti del lavoro, ma è chiaro che qui stiamo affrontando una situazione completamente diversa, dove c'è l'accordo di tutti nel mantenere la minoranza, le minoranze in una situazione di grande discriminazione. E quindi c'è una questione che non è mai stata affrontata dagli altri relatori: chi parlerà a nome di quelle persone che non hanno accesso al tavolo di contrattazione? E l'ultima cosa che voglio dirvi sarà una conclusione e anche un commento sulla base della discussione di ieri sui diritti collettivi. Leggendo tutte le relazioni c'è stata una parola che io ho trovato raramente citata, solo in una sola relazione, è sindacati o lavoro organizzato. Io credo che questo è qualcosa che ci dia da pensare, per non dire niente della poca speranza che è riposta sulla contrattazione collettiva internazionale, anche se la contrattazione collettiva nazionale non è mai stata citata come strumento contro la discriminazione. Grazie. Thank you very much. Grazie, Jacques. Veramente abbiamo parlato di tante cose, ci sono migliaia di domande che possono essere poste per circa la globalizzazione, per esempio, ma io questa mattina non ho mai sentito la parola società multinazionale. Nel mio paese le multinazionali sono responsabili direttamente ed indirettamente per il 50% dei lavori, le decisioni vengono prese a New York per esempio e in Cina sempre di più, portando la loro cultura. Non ho sentito parlare di flessicurezza, vi ricordate 2 anni fa ne parlavamo tantissimo, il ruolo dei sindacati, esattamente. Cosa si può fare quando una società internazionale dice chiudo qui? E cosa può fare un sindacato nazionale? Cosa possiamo dire dei giovani che non hanno lavoro? Abbiamo avuto la discussione sul settore informale in India, che ancora non abbiamo discusso, ma si tratta di un aspetto veramente importante. E la capacità, hai la capacità e poi i diritti del lavoro e poi i diritti umani. E l'India, se posso dirlo, è un membro dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, una dichiarazione è stata fatta nel 1987, anche per quei paesi che non hanno ratificato la convenzione sul lavoro minorile, il lavoro forzato, la libertà di associazione, eccetera, eccetera, sono comunque in un certo senso legati da questi principi fondamentali dell'OIL, perché stiamo parlando di diritti e di principi sul posto di lavoro. Quindi, quando diremo che il sistema informale in indiana è il sistema formale, in realtà, in un certo punto di vista non ne abbiamo parlato. E poi cosa può fare il singolo individuo? E poi delle class action. Bene, ho parlato abbastanza e adesso chiuderemo, finiremo alle 1:05, 1:10, quindi abbiamo abbastanza tempo per discutere. E per favore, a chi volete rivolgere la domanda, in modo che i relatori che sono qui possano tornare su e rispondere. Quindi vorrei che le domande fossero una dopo l'altra, accettiamo 4-5 domande e poi vediamo dove arriviamo. There is someone else always, but they don't dare before you have spoken, yeah. Okay. Anyone else who wants to intervene? C'è qualcun altro che vuole parlare? Alzate le mani se volete fare un intervento. 1, 2, bene. Sono rimasto affascinato dalla relazione del nostro collega indiano. Mi dispiace, non conosco il suo nome, non posso dirlo. Ma io credo, Supriya Russo, lui ci ha portato la nostra attenzione su un problema che abbiamo trascurato per troppo tempo. È vero. Questa bellissima dichiarazione del 1999. lavoro, ma non dobbiamo dimenticare che l'OIL per molto tempo, e lo dico per molto tempo, in maniera esclusiva si è concentrato sul settore formale, sul settore formale. E noi in Europa, e questo vale anche per gli Stati Uniti, non abbiamo nessuna idea di quella che è la dimensione del settore informale nei paesi in via di sviluppo. Io lavoro abbastanza in Africa e anche nel sud-est asiatico e so di cosa parlo. Noi non abbiamo questo tipo di relazioni dove si può cominciare con diritti che dell'uno contro l'altro. Sono strutture completamente diverse in questi paesi, vi devo dire. Il dibattito adesso è a livello dell'OIL, ma l'OIL non riesce a fare niente. Quest'anno, nell'agenda della conferenza del lavoro internazionale a giugno, abbiamo un punto che recita formalizzazione del settore informale. Non si può essere più ingenui di così. Coloro che conoscono la dimensione del settore informale in quel paese mai avrebbero l'idea di tentare di formalizzare quel settore. Ed è questo il messaggio che voglio darvi. Noi dobbiamo trovare degli strumenti specifici per bisogni specifici del settore informale. E questo si tratta di un approccio completamente diverso rispetto a quello che abbiamo nel settore formale. Altre domande? Really, my question is addressed to La mia domanda è rivolta a tutti, o solo alcuni dei quattro relatori, inclusi me. E si basa sul commento fatto da Gina e da Jack. Lina dice: dobbiamo riconoscere il momento storico presente. Jack dice: chi parlerà per i più vulnerabili? Ed io mi chiedo, ognuno di voi, quando i più vulnerabili, in un periodo storico in cui i vulnerabili sono sicuramente i più vulnerabili, e devo dire che la precarietà è aumentata per tutti, anche nel settore formale, e quindi i quattro relatori di queste relazioni, appunto, quando si parla di diritti umani e di discriminazione, si può pensare che forse dobbiamo allontanarci dal nostro pensiero convenzionale. Per quanto riguarda le leggi sull'uguaglianza, se questa non produce dei risultati dopo un mezzo secolo, allora forse dobbiamo pensare di più a dei modelli alternativi. Forse c'è una porzione dell'uguaglianza, ma qualcosa che trascende il genere, per esempio, la razza, proprio a questo è dovuto all'aumento di vulnerabilità in tutti i settori. Quindi la domanda è: qual è un lavoro dignitoso, ritornando a noi, un lavoro dignitoso, oppure possiamo dimenticarci la relazione di lavoro e cercare la tutela delle persone con un approccio completamente nuovo? Forse i vecchi modelli adesso non riescono più a rispondere alle nostre necessità. Grazie. Dennis Bellace, ci sono altri che vogliono partecipare? Vorrei far seguito a un commento di Jacques sul non sentir parlare dei sindacati, non aver sentito parlare dei sindacati questa mattina. E mi colpisce che quando parliamo di legge sulla discriminazione, spesso parliamo di diritti individuali, tuttavia il modo in cui si pensa al lavoro, si pensa come parte di un gruppo, si tratta, il target magari è l'individuo, ma si tratta della manifestazione in cui il gruppo viene visto, e in alcune circostanze come per esempio la previdenza sociale e per esempio il pari trattamento economico, Allora, si fa parte di un gruppo, si tratta di una struttura di compensazione, il modo in cui il mercato del lavoro viene organizzato, il modo in cui noi come società separiamo il compenso che riceviamo durante il lavoro rispetto per esempio a quello che riceveremo come pensione, ma devo dire che le donne hanno utilizzato i sindacati come voce e le donne e gli uomini fanno parte di ambedue della società e hanno fatto in modo che si sia arrivati ad un consenso su come muoversi. E naturalmente i tribunali sono stati utilizzati anche in maniere che non sono adeguate ai tribunali. Quindi noi dovremmo fare un passo indietro e decidere come vogliamo affrontare la questione del reddito durante la vita lavorativa e anche come, per quanto riguarda per esempio il congedo parentale, se deve essere pagato o non pagato, perché questo ha un impatto poi sui redditi da pensione. Class actions are important. Quindi le class action sono molto importanti. Ed ora abbiamo ancora un altro intervento e poi vediamo se qualcuno vuole rispondere. Prego, vorrei semplicemente rispondere ad un paio di domande. Innanzitutto vorrei sottolineare quanto ha detto Manfred Weiss. Io ho parlato a Parigi allo staff dell'OIL e gli ho detto esattamente la stessa cosa che ha detto lei. Cioè, è una domanda sbagliata da porre. Ma loro hanno detto siamo noi abbiamo a decidere la domanda che ci siamo posti. E poi, per quanto riguarda la questione del 1998 della dichiarazione, prima del 1998 l'OIL o tutti potevano indicare l'India e gli Stati Uniti e dire l'India non ha ratificato la convenzione 87-98, gli Stati Uniti non hanno ratificato l'87, ma indipendentemente della ratificazione degli Stati membri, queste 8 convenzioni sono valgono per tutti e si esonera l'India e gli Stati Uniti e quindi adesso gli Stati Uniti sono ben contenti. Ricordate che sono uno dei maggiori finanziatori dell'OIL. Il 1998 si applica a me anche se non lo devo ratificare, non devo più ratificare l'87 perché si applica comunque. Quindi per quanto riguarda la dichiarazione del 98, io credo che questa è la strategia dell'OIL per fare in modo che ci sia una diversità di appartenenza, perché altrimenti perderà la sua rilevanza nella comunità internazionale dell'organizzazione. Voglio unire due domande, quella di Lina sul mio studio del caso e la domanda di Jack, chi parla per le persone che non hanno accesso alla contrattazione collettiva? Beh, dobbiamo chiederci qual è l'alternativa anche. Beh, io qui voglio fare il marketing del mio libro, verrà pubblicato da Routledge e affronterà proprio queste domande. Io parlo del mio case study nel libro e allo stesso tempo sostengo l'organizzazione di non solidarietà dei sindacati. Perché lo dico? Io ho preso il concetto delle istituzioni integrate, cerco di sottolineare di non guardare gli stati come un corpo unico, ci sono delle istituzioni dello Stato, tra cui il giudiziario, i partiti politici, i partiti di opposizione, i membri del Parlamento, i membri dell'Assemblea legislativa, oltre a questo ci sono altre istituzioni di una società democratica, includono i mass media. le organizzazioni della società civile, le organizzazioni non governative, so che ci sono tantissimi problemi con le ONG, ma per quanto mi riguarda, per l'informazione dei lavoratori più vulnerabili, ci deve essere un approccio integrato dove tutte queste istituzioni si devono riunire per creare un movimento di solidarietà che non deve necessariamente legato al sindacato. E qui mi fermo, grazie. Mike, please. Anyway. Mike, una reazione su questo punto. Nella dichiarazione del 98, il requisito, fra l'altro, è che un rapporto da parte di quei paesi che non hanno ratificato, quindi molti casi sono stati già affrontati per quanto riguarda gli Stati Uniti, quindi sono sicuro che siamo andati ben al di là dello statement, sono qui e sono felice. Quindi qualsiasi sia la teoria, naming shaming, come diceva prima l'oratore, si è andati oltre. Molta dell'attività accademica che ho fatto, considerando la questione della discriminazione, che ti porta a pensare o concentrarti su diritti individuali, ritengo non menzerò l'attività di coloro che hanno già lavorato in questo campo, ma comunque andando indietro nel passato mi riferisco a un errore ideologico tremendo nelle modalità secondo le quali gli accademici in generale hanno trascurato l'approccio collettivo o il pensiero collettivo in favore invece dell'individualizzazione. Credo che tutti siamo dell'idea che in qualche modo bisogna ritornare a valori o a modalità di valoriali collettive, no? Si è parlato anche della storia intellettuale molto interessante di come tutto questo si è evoluto negli anni, cioè questo passaggio dell'approccio collettivo post conflitto bellico all'approccio altamente individualizzato che tralascia poi così tante cose e così tanti aspetti. Michael degli speaker, volevi dire qualcosa? Forse tu? Anche tu e qualcun altro? Bene, abbiamo due persone che desiderano intervenire. Thank you very much. Sì, grazie molto per i commenti e per il dibattito veramente interessantissimo. Vorrei dire un paio di cose rispetto a quanto detto finora, anche se molto è già stato detto. Il ruolo della legge che sicuramente deve mettere a frutto il proprio potenziale, ecco perché parlavo dello step by step approach, l'approccio passo passo, ogni piccolo passo è qualcosa in più e non bisogna buttare via ciò che c'è già, e questo vale anche per l'applicazione del concetto di discriminazione indiretta, quando per esempio considero gli intenti, e questo è stato il processo all'inizio dell'evoluzione del concetto del caso Jenkins. In realtà non abbiamo però in quel caso considerato l'intento, l'approccio europeo a questo concetto potrebbe essere fonte di ispirazione anche per altri paesi, infatti molto è stato scritto su questo punto e sicuramente molto interessante. Un punto molto importante è stato sottolineato da Lina, e cioè il fatto che la politica europea sia effettivamente contraddittoria, perché da un lato abbiamo l'approccio ai diritti fondamentali, uguaglianze eccetera, che non vanno molto oltre, ma l'approccio della Commissione europea con l'IMF, la Banca europea e la Banca centrale europea hanno adottato una serie di misure di austerity per cui che poi sono state riportate a livello nazionale in molti paesi e nel sud Europa. Io in realtà ho considerato l'Europa solamente, ma la dimensione di cui parlate voi naturalmente è molto importante e temo di non avere la possibilità in qualche minuto di dare la risposta a tutte le domande, quindi c'è una contraddizione a livello di Unione Europea che dovremmo comunque considerare mettere in primo piano molto più spesso, e naturalmente la questione del nuovo modello è sicuramente molto interessante, ma ce l'abbiamo poi questo nuovo modello? C'è un dibattito su questo e vi è anche molto in letteratura con approcci differenziati relativi ai rischi della disoccupazione nel campo dell'istruzione, nella cura eccetera, come tutti questi possono essere affrontati a livello di modelli diversi con un approccio al ciclo di vita tipo life cycle. Credo che davvero sia necessario andare verso altri tipi di modelli, e questo naturalmente non potrà accadere dall'oggi al domani, ma sempre nel riconoscimento comunque che il problema fondamentale dell'inclusione e dell'esclusione, cioè definire chi è incluso e chi è escluso, va affrontato in un altro senso, non esclusivamente attraverso le tutele statutarie di cui disponiamo oggi. Well, I'll leave with this two quick remarks. Due osservazioni molto rapide. Infatti il rischio è che a un certo punto la gente, dopo che fai una presentazione, uno ti dice grazie per l'analisi, ma adesso che cosa vuoi fare, no? Allora, quali strategie sono le migliori, no? Aggiungerò qualcosa a ciò che ha detto già Suzanne, ma in realtà d'altra parte vorrei metterci poi comunque un ma in tutto questo, no? La questione non è quella di trovare una nuova strategia, una nuova soluzione, ma chiederci se davvero vogliamo farlo. Come diceva il Presidente, viviamo in momenti di austerità e che si parli di tutele sociali, eccetera. Si tratta sempre di soldi e della suddivisione di queste risorse monetarie, no? Allora, la legge su una politica più soft in questo campo era una bella idea, ma secondo me gli Stati membri non sono riusciti a venire un accordo su tutto questo, quindi non volevano neanche arrivarci poi, perché il problema è sempre lo stesso, no? È ciò che si dice, ciò che si fa, ciò che è scritto. E poi, per rispondere alla domanda, i gruppi vulnerabili e il ruolo del sindacato. Nel mio paese il sindacato è in estrema crisi, una crisi profondissima, purtroppo i giovani non si avvicinano al sindacato, non sono devoti al sindacato, e anche i partiti politici, le grandi organizzazioni cominciano a prendere le distanze da tutto questo. Quindi la domanda è: che fare da qui in avanti? Beh, ci serve la creatività delle persone, delle generazioni, di coloro che sono cresciuti con internet e sanno come mobilizzare le masse, la gente, perché se la gente non si impegna più in nulla, allora se la mentalità è ma chi se ne importa, allora noi potremmo mettere a punto le idee più belle, le strategie migliori, ma non funzionerebbero mai. Quindi la comunicazione con le generazioni moderne è sostanziale, i sindacati dovrebbero cercare di reinventarsi, cercando di rispondere alla questione della frammentazione del lavoro, i contratti di lavoro a tempo breve, determinato, come offrire qualcosa ai giovani che li convinca che ci sono nuovamente dei contenuti e forse anche cercare di rialzarsi da questa crisi, perché i diritti umani sono diventati una questione forte dopo la Seconda Guerra Mondiale. Non c'è bisogno di dire come mai e il perché non abbiamo il tempo, ma poi tutti sappiamo. Allora, in conclusione, per quanto riguarda le contraddizioni europee, l'Europa da questa crisi ha preso come cercare di uscirne con politiche di risparmio, di governance economica, eccetera, che credo siano essenziali. Le opinioni possono essere diverse, ma comunque quello non è importante. In realtà non si può creare un paradiso sociale su un cimitero economico, quindi mettiamo a posto l'economia, poi pensiamo alle politiche sociali, e per quanto riguarda quest'ultima, la mia critica la conoscete, l'Unione Europea non è che ha la competenza in seguito a Maastricht, eccetera, quindi secondo me bisogna capire allo stesso tempo che l'Unione Europea rappresenta il 7% della popolazione mondiale, quindi 500 milioni di abitanti rispetto al totale su questa terra, e quindi dobbiamo sicuramente considerare il peso anche della globalizzazione e come sostenerlo. La discussione mi è sembrata molto ricca, arricchente, che ha aperto tutta una serie di questioni che magari sono rimaste sul tavolo, cercano ancora una risposta, ma l'importante è che le relazioni di lavoro sono comunque relazioni di potere, e lo sono ancor più se si considera che il potere non pertiene alla sfera del lavoro, quindi è una marginalizzazione di coloro che sono attivi nelle relazioni di lavoro, e quindi dove i lavoratori vanno bene è esattamente dove non c'è lavoro, quindi quando ci sono appunto dove c'è appunto un fabbisogno sul mercato, il mercato ha prevalenza ed è più importante a priorità su tutto il resto, sulle teorie. Quindi un modesto contributo tutto questo a un amico che abbiamo perso 12 anni fa. Ringrazio tutti per il contributo, per la pazienza, per avermi dato la presidenza, ringrazio tutti coloro che hanno ascoltato, coloro che hanno dormito a occhi aperti, coloro che hanno partecipato, grazie a tutti, buon pomeriggio ancora nella ripresa dei lavori. Oh.